Dio odia le fantasticherie perché rendono superbi e pretenziosi. D. Bonhoeffer. Il Nuovo Testamento Roduzione. Questo libro nasce da un'esperienza personale dolorosa, dunque non da una fantasticheria. Il racconto iniziale riferisce di essa e, sebbene drammatico ed intriso di tristezza, riesce solo lontanamente a comunicare l'angoscia, il senso d'impotenza e la sofferenza provati da me e da mia moglie in quell'occasione. Essa dunque si è trasformata nell'opportunità, preziosissima per me, di riflettere e far riflettere la teologia su di una questione colpevolmente relegata nel dimenticatoio. Per questo desidererei che il lettore non giudicasse queste mie pagine alla luce del primo impatto. Sarebbe una inqualificabile semplificazione. Sono cosciente inoltre che proprio nel riuscire a catturare l'attenzione del lettore fin dalle prime pagine consiste l'arte precipua dello scrittore. Io però non sono uno scrittore, o almeno scrittore di romanzi, novelle. Sono piuttosto un uomo di teologia che scrive sì, ma di questioni tecniche, per così dire. Abbia dunque il lettore la compiacenza e la pazienza di seguirmi, almeno fino al primo capitolo, e, credo fermamente, non ne sarà deluso. Tutto iniziò da una telefonata sul cellulare. Era una fresca giornata di ottobre padano, una di quelle giornate terse che, d'autunno inoltrato, lasciano presagire un inverno mite e godibile. Stavo, come tutti i giorni, nervosamente districandomi nel traffico e osservavo le montagne dell'Appennino. Non ricordo a cosa stessi pensando in quel momento. Forse pensavo al Salmo 121. O a qualcosa del genere. Uno avevo dipinto sul volto l'inequivocabile sguardo ebete dell'uomo, realizzato e borghese, che, aggrappato alle sue certezze, si crede felice. Forse stavo pensando alla riunione di chiesa del martedì sera, o forse ad altro, ai miei studenti poco studiosi, non so. Non ricordo. Ho rimosso. La telefonata arrivò all'improvviso. Una maledetta telefonata. Un singhiozzo dall'altra parte del telefono. Sperai, in quell'attimo, che la linea fosse disturbata, ma in un nanosecondo la speranza svanì. Mia moglie, singhiozzando, mi implorò di ritornare a casa immediatamente. Era fin troppo palese che qualcosa di brutto era accaduto. Le chiesi cosa fosse successo, le dissi che ero in pieno traffico e che, se mi avesse innervosito, avrei corso dei rischi, quindi volevo sapere. La linea cadde inesorabilmente. Richiamai con una frenesia paranoica, ma l'operatore, attraverso l'assettico nastro registrato, con voce metallica e ripetitiva, mi disse che l'utente non era raggiungibile. Già utente non siamo più solo uomini, adesso siamo anche cittadini non più sudditi, e anche utenti che forse contano più dei semplici cittadini. Ero abituato a telefonate del genere che presagivano notizie per nulla buone. Da anni ormai avevo perso la famiglia di provenienza, i figli e pure gli amici più cari, e avevo soltanto 33 anni, un'età che è tutta un programma. Qualcuno, a quell'età lì, aveva niente meno che salvato il mondo, mentre io facevo fatica a salvare la mia faccia e il senso della mia vita. In pochi minuti arrivai a casa e lei, stravolta dal dolore, singhiozzando e stringendo le labbra in modo malsano, mi indicò il mio cucciolo che pareva dormisse. Aveva una macchia rossa vicino all'orecchio sinistro. Era morto da pochi minuti. Uno, alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Per millenni i pellegrini che visitavano la città santa, Gerusalemme, cantavano questo salmo delle ascensioni confidando nel certo aiuto dell'Onnipotente. C.F. S.L. 121, 1S. Avevo visto spesso il volto della morte, anche in guerra laggiù, in Medio Oriente, ma è sempre la prima volta, anche di fronte ad un animale. Quell'animale però era il mio. Ero schiantato. A questo punto qualcuno potrebbe pensare ad una patetica drammatizzazione di un fatto di per sé naturale. Forse potrebbe anche ravvisare una certa quale esagerazione nei termini e nella descrizione. Di un fatto, banale, gli animali muoiono e la cronaca degli uomini nemmeno registra questi fatti. È normale. È normale che la vita finisca e non si può e non si deve farne una tragedia. Io rispondo. Chi non ama gli animali non ama nemmeno gli uomini. con parole senz'altro più eloquenti. Qualcuno molti secoli fa disse: «Se dici di amare Dio che non vedi e odi il tuo fratello che vedi, non sei forse un bugiardo?» 2. Eravamo quindi letteralmente schiantati. Ci guardavamo come due stupidi e ancora una volta vivevamo lo stesso senso di impotenza che si ha di fronte alla morte in generale. Mi piegai su di lui. Chiesi cosa fosse successo, ma non capii le parole biascicate della mia compagna, anch'ella in ginocchio in lacrime. Non mi interessava in fondo cosa fosse successo. La cruda realtà stava obnubilando totalmente la mia attenzione. Una macchina lo aveva colpito ponendo fine alla sua vita. E quella del mio cucciolo era vita. Vita vera. Anche adesso, dopo anni, nel ricordare su queste pagine quegli eventi lontani, provo lo stesso orrore. E la memoria di allora con le sue immagini è più viva che mai. Tutto è ancora reale e drammaticamente triste e privo di senso. In fondo, mi dicevo in quel momento, in fondo è una bestia. Ma sentivo che nel tentativo di autoconsolarmi stavo bestemmiando. «Perché questa morte? Perché questo ennesimo dolore?» chiesi a lui. «Lo chiesi a lui perché è lui, il responsabile della vita e della morte». Chiedevo sommessamente il perché al mio Dio spettatore e, senza accorgermi, molte lacrime mi solcavano il volto e finivano sul mio cucciolo esanime. La stessa domanda mi sorge spontanea sempre, anche quando un uomo o un qualsiasi essere vivente lascia il mondo. E ovviamente nessuna risposta. Sembrava, e forse lo era, una reazione tipicamente adolescenziale. Ma per vivere sempre al massimo e pieni di entusiasmo diventa necessario sapersi stupire come nemmeno più sanno fare gli adolescenti. In realtà ero solo un uomo pieno di dolore. Perché? Perché era successo? Ho studiato teologia, merce rara in Italia. Mi sono laureato tanti anni fa a pieni voti. E oggi la insegno anche. Ma la domanda è sempre la stessa. Perché? E chi, se non un teologo, avrebbe l'ardire e la competenza per dare una risposta. Eppure, dentro di me, stavo ascoltando solo un sinistro silenzio. E so che Giobbe 3 fece la stessa domanda a Dio. Si lamentò tanto per la propria ingiusta sofferenza, e lui, Dio si intende, non rispose come a me, nulla. Oh sì, Giobbe era un uomo, e quello soltanto. 2 CF 1 GV 4 20 3. Le riflessioni sul dolore, sulla morte dell'innocente, sulla teodicea, che si possono ricavare dal libro di Giobbe e che vedono l'uomo e la natura unite dal tragico destino del dolore e della morte, sono state oggetto di una profonda analisi da parte di uno dei più grandi teologi dell'America Latina, G. Gutierrez, esponente della teologia della liberazione che tanti dibattiti e censure suscitò negli anni 70 nella Chiesa Cattolica, ma che ebbe l'indubbio merito di sollevare il problema della sofferenza dell'innocente di fronte alla grande platea del mondo occidentale. C.F.G. Gutierrez. Parlare di Dio a partire dalla sofferenza dell'innocente. Una riflessione sul libro di Giobbe, Queriniana, Brescia 1986. Un cucciolo d'animale, come tanti di cui nessuno si occupa, e che se muore non fa mutare i destini del mondo, ma era il mio cucciolo, era il nostro cucciolo, e noi il suo branco. 4. Giobbe aprì la bocca e maledisse il giorno in cui fu concepito, e il giorno in cui nacque, il giorno in cui fu data la notizia al padre, ti è nato un maschio. C.F. G.B. 3. Poteva tutto finire così. Sotto una macchina, dopo avermi fatto compagnia, amato e protetto. Esattamente come il mio angelo custode. 5 può, tutto, finire così. Poteva tutto finire sul selciato di una squallida periferia di una qualunque città padana? Lo accarezzavo e sentivo che il tepore lo stava abbandonando. Non potevo andare oltre. Lo baciavo e davvero sembrava dormisse il sonno del giusto. Nella sua vita non mi ha mai tradito. Di che razza era? E chi lo sa? Forse razza fedele. Una razza rara oggi. Maledissi il giorno della mia nascita e della sua perché il dolore ormai era insopportabile e i ricordi che mi si affastellavano nella mente mi facevano male. Non era soltanto per questa morte, lacerante. Sì, ma pur sempre di un animale, che maledissi il giorno della mia nascita, ma perché con la morte non ho mai avuto un buon rapporto, e questa morte era quella che stava facendo traboccare il vaso della mia umana sopportazione e rassegnazione. Oltre alla morte dei figli e degli amici più intimi, oltre alla perdita della famiglia d'origine, avevo anche vissuto la tristissima esperienza dell'amico di famiglia, io, che depone il vaso torrido del genitore del proprio migliore amico dopo la cremazione. Certo, non ci sono paragoni, ma ero stanco e sfinito di morte. Stanco di morte e di dover veder morire. Forse è per questo che amo ogni giorno di più colui che ha vinto la morte. Io e mia moglie ci eravamo legati al cucciolo come alla vita stessa, perché lui trasmetteva vita. Il mio dolore era, ed è ancora, enorme. Anche quello di mia moglie. Era la sua amica, quella che ogni giorno gli cucinava la pappa. Sei. Alcuni nostri conoscenti cercarono inutilmente di consolarci, ma non è possibile consolare chi perde un amico del genere. Il silenzio regnava sovrano. La motivazione di tale silenzio va individuata più nella valutazione soggettiva di chi conforta che nello stato d'animo di chi soffre. È vero, infatti, che quando uno è schiacciato dal dolore non sta ad ascoltare chi parla per consolarlo, per cui anche un poeta dice: chi se non incosciente non lascia che una madre pianga la salma del figlio? Ovidio Remedia Moris, versetto 127. Giobbe invece non era così sconvolto da non poter ascoltare parole di conforto, ma piuttosto trovava da solo consolazione nella saggezza, come risulta dalle sue parole. 7. 4. Gli esperti di psicologia canina affermano che il cane vede negli umani con i quali vive esattamente il branco come lo vedrebbe se vivesse con i propri simili. Le dinamiche comportamentali quindi sono da intendere bene per educare il proprio cucciolo in modo scientifico e soprattutto capirlo. 5. Sono un teologo che crede ancora e fortissimamente alla pietà celeste che mi ha assegnato un angelo custode, e quindi credo anche all'angelo custode. Lo dice Gesù, e ciò dovrebbe bastare anche ai teologi più illuminati ed avanguardia. Anche mia nonna me lo faceva amichevolmente salutare alla fine delle preghiere della sera. Qualche collega sorriderà. Ma stia attento, non vorrei che Cristo e mia nonna dal cielo sorridano di lui. Se tengo a precisare che la narrazione fin qui riferita è una vera e propria mitzvah, cioè un'opera di carità di alto spessore morale, così come avremo modo di considerare più avanti, e non ha altro scopo che questo. 7S Tommaso d'Aquino. Commento al libro di Giobbe, introduzione, traduzione e riflessioni conclusive, a cura di L. Perotto, ESD, Bologna 1900. Senza voler affermare che la perdita del mio cucciolo possa essere nemmeno lontanamente paragonata a quella di un figlio per la madre, ciò che intendo sottolineare è la dimensione della inconsolabilità umana del dolore considerato nella propria drammaticità e sofferenza oggettiva, salvo che questo non venga posto al vaglio e all'assistenza della fede in Cristo e della sua resurrezione. Questa è la saggezza. Ravvisai immediatamente che c'era qualcosa che non andava nella riflessione umana sul dolore e, in modo specifico, sulla dimensione umana del dolore per la perdita di un amico speciale, anche se appartenente a razza subumana. La sofferenza umana per una perdita così particolare è stata davvero ignorata come problema teologico, anche se non è propriamente la teologia a dover indagare sulla sofferenza. Però, su Dio senz'altro sì. Possibile che con tutte le cose che pensavo di sapere sulla vita, su Dio, sulla morte, eccetera, non ci fosse nulla che mi potesse servire in quello strazio? Andai in automatico a cercare qualcosa nei files della memoria, ma non trovai granché. Fu forse proprio in quel momento che nacque questo libro, pensato e scritto per condividere un percorso teologico e divulgativo sulla morte e sulla vita, oltre la morte dei nostri piccoli soci di vita. C'era proprio una lacuna enorme, un vuoto pieno di conoscenze teoretiche ma vuoto di valori assoluti. 8. Qualche cosa non quadrava nella mia teologia o nella teologia che mi avevano insegnato. Proprio dal libro di Giobbe, confrontaci 3, veniamo a conoscenza che la morte pareggia tutti i viventi. Tutti, nessuno escluso. e l'uomo. Improvvisamente, però, mi balenò alla mente con vergogna e gioia di non aver mai ricevuto alcun tipo di insegnamento specificamente teologico su quelle belle anime preziose che sono gli animali. Anime, dico anime. Mi raccomando, leggete subito questa nota. Miku Red 1.9 tesi. Vi precipitai come se stessi accorrendo ad un virtuale salvatore nel mio studio dove ben altri amici 10 miglia attendevano come al solito anch'essi pieni di austera vita sogghignando, e quando mi otto alludo evidentemente al vuoto teologico sul destino ultimo degli animali nel loro rapporto con il loro creatore e del rapporto della creatura umana fatta di immagine e somiglianza di Dio con il dolore causato dalla perdita di un animale. A tal proposito rimando all'episodio di 2 Sam 12. 1 a 7 del quale ci occuperemo oltre. Non si può banalizzare o non considerare nemmeno una riga della Bibbia. Figuriamoci se poi all'episodio indicato è legata una promessa messianica. Questa almeno c'entra con l'umanità? Domanda ironica, ovviamente. 9. Definisco l'animale con il termine anima perché la Bibbia usa esattamente questa parola. Vediamo in che modo. Iniziamo ovviamente da GN. Ad arte si usa qui nuovamente New 2, 2023, per indicare la creazione dei viventi animali. L'importante designazione del particolare ed esclusivo agire di Dio, il verbo bara, fare, è un uso speciale, prescindendo dal versetto 1 riassuntivo, per caratterizzare anzitutto la creazione del vivente, versetto 27. In confronto con la creazione mediante la parola, bara, denota senza dubbio un rapporto immediato tra creatura e creatore. Questa nuova vita creata è anche oggetto della benedizione divina. Questi esseri viventi, cioè, sono insieme i depositari di una forza divina contenente la vita per la quale essi sono in grado di comunicare da soli, mediante la generazione e la vita ricevuta. Poi però von Rader sembrerebbe ridimensionare questa dignità magnifica degli animali. La prima opera del sesto giorno, la creazione degli animali terrestri, completa quella del quinto giorno. Anche qui, come nella creazione delle piante, abbiamo una partecipazione della Madre Terra all'attività creatrice. L'animale, in virtù dei suoi costitutivi vitali, è totalmente dipendente dalla Terra e da questo legame creaturale riceve vita e morte. Ad arte si omette la benedizione divina. La forza vitale per la continuazione della generazione gli animali terrestri la ricevono solo immediatamente da Dio, immediatamente l'hanno dalla Terra, cui viene attribuita una propria potenza creatrice. Empel, Das Ethos des Antico Testamento, 174. G. von Rad, Genesi, capitoli 1-12. Paideia, Brescia 1969-65. È però anche altrettanto vero che anche la creazione dell'uomo è avvenuta attraverso l'uso della Madre Terra, come la definisce von Rad. Non solo, ma anche l'uso del verbo bara, sia l'uso della classificazione anima vivente nefes, è comune all'uomo come all'animale. Confronta GN 1.24, 2.7. Secondo però l'interpretazione tipica dei padri greci, clacinima vivente è la terra. A produrre el, anima el, perché si comprenda la differenza fra l'anima della bestia e l'anima dell'uomo, confronta Q3, 19.2.1. L'anima degli esseri irragionevoli è terrestre, e si dissolve nella terra, Basilio, in ex, 8.2, Giet 434, Uneri, Genesi, EDB, Bologna 1995-19, Lag Fem. YX, ciò che vive tanto al sing, quanto al plur, sta a designare semplicemente gli esseri viventi, cioè soprattutto le bestie. Per lo più, il vocabolo denota gli animali selvaggi, che vivono in libertà, in contrapposizione agli animali domestici, BM, Gen 8, 1, e Z14, 15, 33, 27, Sof 2, 15, Sal 148, 10, GB, 37, 8. Talvolta si fa un'ulteriore delimitazione, gli animali della terra in contrapposizione agli uccelli e ai pesci. GN1288-19 LV11-2. Eccezionalmente però, AKYX può designare anche gli animali domestici, NNM35-3, o le bestie da soma, IS46-1. YX ha anche il sign, astratto di vita soprattutto in Sale Job, 5X nei discorsi di Eliu, dove è sinonimo di NAE, FAES, confronta G, GE, RLEMAN, S. versetto HYX, IN, E, Jenny C. Westermann, Dizionario Teologico dell'Antico Testamento, ed Osit, a cura di GLPR Antico Testamento O1, Marietti, Torino 1978, 479. Sogghignano, sbadigliando pagine fruscianti, è un brutto segno. Significa che dovrò lavorare in modo indefesso e senza interrompermi per settimane, mesi, anni forse. Infatti ho poi scritto questo libro, appunto, dopo anni, in una notte, tutto d'un fiato. I miei libri, amati o odiati. Mi chiedevo, non lo vedrò mai più il mio cucciolo? E quando noi uomini certamente risorgeremo, lui, il mio cucciolo, cioè, dove sarà, nell'anonima polvere, per sempre? Ma se è stato meglio della stragrande maggioranza degli umani che ho conosciuto, me compreso ovviamente, e chi lo ha detto che questa deve essere ineluttabilmente e irrimediabilmente la sua fine? Chi? Dove è scritto? Datemi una risposta, invocai, e i libri, nella loro aristotelica aseità, si sdraiarono al mio fianco e si fecero suggere con la solita mistica passione. Dovevo assolutamente trovare una risposta. Alla luce degli scritti di Peter Singer siamo in un certo senso obbligati ad una riflessione sulla vita e su di una certa quale autocoscienza degli animali e sul nostro rapporto con loro. Di pari passo, anche la teologia ha il dovere, ripartendo dalla fonte primaria che è la Sacra Scrittura, di ripensare al rapporto fra uomo e mondo animale e fra il mondo animale e Dio. Infatti, quando viene a mancare un piccolo amico con il quale hai vissuto tanti anni in armonia e dedizione reciproca, il problema si ripresenta e assale in modo violento le istanze cognitive della scienza di Dio e le domande non finiscono mai. Con questi stati psicologici di prostrazione è facile che il dolore faccia vaneggiare l'intelletto. Ricordo a tal proposito la disperazione di due genitori, meno un medico serissimo e avanti con gli anni, e la sua devota compagna che, di fronte alla morte prematura del figlio in un incidente, erano e sono convinti che il morto detti loro messaggio. Quindi, a modo loro, il figlio è ancora vivo. Qualche maestro della spiritualità cristiana potrebbe avanzare anche l'ipotesi di disturbi satanici, visto che la telescrittura è così che mantengono i contatti col defunto, è una funzionalità medianica fortemente sospettata di essere sotto l'influenza del demonio. Eppure, chi sarebbe disposto, per amore della verità, a dire a quei signori che il loro figlio è semplicemente morto? E che solo il Cristo, in una prospettiva autenticamente cattolica, potrà farlo rivivere nell'ultimo giorno? Chiedere a Marta e Maria le sorelle di Lazzaro. Confronta GV11. Il rischio di vaneggiare lo correvo anch'io, ovviamente. Fra chi pensa al figlio che detta dall'altro mondo messaggi consolatori e chi pensa all'aldilà per le mosche, formiche, zanzare, C e N è abbastanza per riaprire i manicomi. Eppure, prevedo l'obiezione che qualcuno dei miei lettori, un po' analisti e un po' sofisticati, avanzerà. Il dolore lo sta facendo delirare e non rassegnandosi alla fine, deve per forza inventarsi una pia e illusoria speranza che lo faccia vivere. Povero disgraziato animalista e teologo sensazionalista e quant'altro. 11 certo, diranno sempre i miei censori e detrattori, certo, anche le... Povero mondo. Sì, ma anche povera e derelitta teologia, dico io, che si occupa oramai soltanto di statistiche demografiche, sociologiche e di umanoidi asserti, senza più occuparsi principalmente di Dio e del rapporto di questi con il suo creato. Mi limito a sottolineare il fatto che questo degli animali è davvero un serio problema teologico. Sapevo, e noi tutti sappiamo, che fra guerre minacciate scoppiate, fra i drammi del terrorismo, della fame nel mondo e altre brutture del genere, quello della salvezza delle bestie o fosse anche della loro 10, i miei libri, insostituibili e impareggiabili. Unici davvero. 11. Non vorrei nel modo più assoluto essere avvicinato a quelle frange di esponenti del pensiero cattolico vicini al mondo, cosiddetto ecologista, di fronte al quale la civiltà cattolica ci invita ad un sano ed onesto discernimento, e dalle cui degenerazioni ci invita ad essere quanto meno distanti. Confronta ecologismo e cristianesimo. Convergenze e divergenze. La civiltà cattolica. 3351. 3 febbraio 1990. Anno 141. 214-227. Per un aspetto positivo rivolto al tema ecologico, confronta L. Andre Antico Testamento T.A., a cura di Il Creato Santuario di Dio. Il pellegrinaggio tra ricerca, incontro, contemplazione e testimonianza. PM 2002. Risurrezione dovrebbe essere l'ultimo dei problemi del mondo 12 e per Dio stesso, ma un nostro simpatico antenato, tal Noa 13, con tutti i problemini che avrebbero dovuto affrontare gli umani da lì a poco, si legga il diluvio, pensò a salvare per comando divino e con il suo ingegno. Per prima cosa tutti gli animali, poi pensò a se stesso e alla sua non meritevole di salvezza famiglia. Ancora una volta, ricordiamo che chi non ama la vita subumana non può amare la vita umana e nemmeno quella divina, ovvio. Eppure, dobbiamo chiederci, chi mai ha speso due righe di inchiostro in passato per fare una seria teologia per il mondo animale? Nessuno ne ha mai trattato in modo compiuto e serio. Nemmeno un dibattito, loro gli animali intendo, per la teologia e per le scienze religiose, saranno estinti per sempre. Io invece non lo credo proprio alla luce di questa ricerca. A quel punto di tristezza, di dolore e di disperazione, non volevo più risposte preconfezionate basate sul si è sempre detto e sul si è sempre saputo. Non siamo al market dove si acquista una 3x2 di modo acritico. Oltretutto, ad aggravare i miei già vacillanti equilibri, venne una squallida conversazione telefonica con un mio ex amico veterinario, apprendista teologo, il quale si spaccia per convinto cristiano credente, che, in modo tassativo e dogmatico, mi disse che per mille motivi le bestie meno, e lui se ne intendeva meno, non possono sopravvivere alla morte biologica in alcun modo, e che questa sancisce anche il loro annientamento spirituale. Andiamo. Bene. Ma come potrebbe il Signore affidare cose grandi a chi non è capace di accettare da Lui con gratitudine le cose piccole? 14. Se il mio ex amico e compagno di merende 15 avesse fatto il fontaniere, l'idraulico in gergo bolognese, anche se in italiano arcaico, come un mio illustre collega di lettere sostiene, l'espressione è giustissima, avrei pensato che il soggetto in questione non capisse davvero un tubo. Ma visto che era un veterinario e titolato come teologo, pensavo stesse scherzando. Invece con l'aria saccente e soprattutto dotta da teologo illuminato quale pensava d'essere, mi prese bellamente in giro col il classico dogmatismo dei fanatici e soprattutto degli ignoranti. Avrebbe dovuto scriverlo lui questo libro, invece lo devo fare io. Quando non ci sono i cavalli corrono anche i somari, tanto per rimanere in tema. Gli chiesi ovviamente come costuma fra di noi esperti basandosi su quali fonti teologiche a me e a tutti evidentemente sconosciute egli stesse dando quel responso, ma non poté rispondere infatti non ce ne sono. Avrebbe fatto meglio quindi molto meglio a tacere. Ma tant'è, i devozionisti, i neopagani e soprattutto i complessati farebbero molto bene a rinchiudersi nelle loro putride sacrestie mentali e continuare a parlarsi addosso, credendo di pregare un Dio che non può ascoltare il loro insopportabile raglio, senza offesa per i somarelli. In queste categorie di personaggi è ben difficile conoscere il confine che divide il soliloquio dalla orazione. 12. Se immaginiamo un dibattito sulla risurrezione degli animali in un consesso umano nel quale partecipassero teologi e filosofi ebrei, i quali oggi stanno addirittura ripensando al loro pentamillenario rapporto con Dio dopo la catastrofe della Shoah e vedono nel silenzio del loro Dio come un segnale di impotenza divina di fronte al male assoluto, confronta Janas il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Il Melangolo, Genova 1997, e Wiesel, La Notte, Giuntina, Firenze 41.988, ci sarebbe davvero di che riempirsi di ridicolo e sprofondare nella vergogna. Soltanto ipotizzare la remota possibilità che l'Onnipotente si dia peso di far risorgere delle bestie, quali poi, tutte, anche i vermi, quando non ha impedito Auschwitz e catastrofi similari in tutta Europa o nel mondo civile, potrebbe oggettivamente sconfinare nella bestemmia gravissima o quantomeno nel cattivo gusto. Eppure crediamo che una profonda riflessione sulla centralità della risurrezione di un ebreo così particolare come il rabbino di Nazareth Gesù dovrebbe spalancare le messianiche porte della speranza a tutto l'universo, all'amore per la vita in generale, che Dio esprime anche per il mondo subumano. 14 Noè secondo il volgare italiano. 14 di Bonhoeffer, La vita comune queriniana, Brescia 70. Cara al compianto Pacciani, intendo dire che impiegai molto tempo con il dottore in questione nello studiare la Bibbia, pregare e tenere conferenze, tempo speso in... Nella sana e vera dogmatica invece non ci si fa del male. 16. Non le voglio più le risposte dai dotti o pseudotali, risposte da azzeccagarbugli e anche dalle scuole classiche di pensiero. Le bestie muoiono e tutto finirà lì. Questo dicono gonfiando il petto dell'orgoglio, ma così facendo fanno anche un cattivo servizio all'uomo stesso. Anche l'uomo muore e tutto finisce lì. È anche altresì desolante che io, che sono un teologo conosciuto, sia obbligato per motivi di cattedra a nascondermi dietro uno pseudonimo per non incorrere in censure accademiche e per non essere emarginato e posto nel ridicolo nel mio aureo mondo di squali. Non mi riferivo alle bestie, ovviamente. Ma come Manzoni ricorda attraverso Don Abbondio, il coraggio nessuno riesce a darselo. Anch'io sono affetto da Don Abbondismo acuto, ma per l'amore che nutro verso le creature che Dio ha fatto e mi ha donato, non posso tacere. I problemi al massimo li avrà questa casa editrice. Ma se pubblica questo mio lavoro, forse, si è già schierata. La mia difficoltà consiste proprio nel ricordare ad un pubblico di esperti del mondo animale come sia lontano da loro il sacro mondo della teologia e come ciò in effetti denunci un ritardo sull'intelligenza della fede cristiana in merito ad una realtà planetaria e fondamentale per l'armonia del creato. Ciò poi, attraverso un linguaggio che sia divulgativo e nello stesso tempo scientifico, almeno per la parte teologica che mi compete per mandato ecclesiale. La risposta quindi la vorrei da Lui, dal Padre Eterno, attraverso la Scrittura. Cid 1, Cid 1, Cid 1. Quella giornata maledetta finì molto presto, e finì come non avrei mai pensato, alzandomi al mattino. Dovunque andassi in casa mi imbattevo in tutte le sue cose, dal collare, alla museruola, alle palline con le quali giocava con me. Dovunque andassi c'era il ricordo di lui, e le lacrime scendevano copiose sulle guance, senza che nemmeno me ne accorgessi. Ogni oggetto mi richiamava alla mente un momento di vita assieme e rammento che pensai al fatto che tutti i ricordi, tutti, erano belli, molto belli. A differenza dei ricordi legati agli umani, a volte ricordi belli, ma molto più spesso brutti, molto brutti. Con Avner no, i ricordi erano tutti belli e forse, proprio per questo, stavo malissimo. Il mio amico non c'era più. Il mio agido suocero provvide alla sepoltura in giardino, ma ancora oggi non mi è dato sapere dove. Io dovevo assolutamente penetrare biblicamente il mistero del futuro del mio e di tutti i cuccioli. 17. Il mio problema era questo, ma non lo vedrò mai, mai più. Eppure ricordo che prima di morire, in una delle sue ultime udienze del mercoledì, il mio 18 Papa, Paolo VI, proprio per consolare un bimbo, che piangeva perché gli era morto, il cucciolo, anche noi siamo quel bambino, disse che nel giorno della risurrezione lo avrebbe riavuto più bello di prima. Creò un po' di sconcerto teologico, ovviamente, ma la cosa fu digerita dagli ambienti vaticani con grande bonarietà, facendo capire che il Papa, fuori dalla ufficialità del discorso, si era lasciato andare all'amore paterno, anzi, al comprensibile amore del nonno. Il Papa dice le bugie ai bimbi, allora? Anche se non parla ex cathedra, mentirebbe sapendo di mentire proprio come fanno i nonni per consolare i nipotini piagnoni? 16. La dogmatite, normalmente conosciuto come dogmatismo, lo dico per i non iniziati, non è l'infiammazione del nervo dogmatico, scherzo ovviamente, ma è quell'aspetto psicologico così lontano dalla sana dogmatica che, riverisco sempre, è lontano l'Oriente dall'Occidente. 17. Chiamo cucciolo ogni tipo di bestia, anche se non canina e anche se avanti negli anni. Una forma vezzeggiativa. Quindi. 18 mio, nel senso che, sotto il suo pontificato, vissi tutte le tappe della mia formazione cristiana. Papa del Concilio e lo apprezzai durante i miei studi. Inoltre, è il Papa della mia gioventù. Un santo. Punto. Qualche dubbio deve sorgere a questo punto. Quell'episodio fin da giovane colpì la mia sensibilità. E non credo ancora, anzi, oggi più che mai, alla tesi del nonno bugiardone. Se mio papa si era così esposto con quel fanciullo, un motivo doveva pure esserci. Avrebbe potuto consolarlo in altro modo. Non facciamo forse così anche noi quando diciamo che Tizio e Caio sono in cielo, mentre sappiamo che sono sottoterra, aprire la bara per credere e che soltanto nel giorno del giudizio saranno completamente in cielo, si spera almeno per il defunto? Una tesi o un'ipotesi valida per l'uomo è immediatamente falsa se attribuita al regno animale. Due pesi e due misure. Non è forse più verosimilmente che Paolo VI conoscesse delle cose che a noi semplici mortali non è dato di sapere in modo chiaro e diretto? Non so. Certo è che da allora, definito l'obiettivo di studio per questo problema, ho scoperto che il nonno ne sapeva di più di quella bonaria battuta consolatoria, quasi fosse stata gettata lì per caso. Animo allora, amici degli animali! Animo, fratelli! Forse non tutto è perduto. Se avrete la pazienza di seguirmi nella mia indagine, che sicuramente sarà irta di difficoltà, ma difficilmente contraddetta dai parrucconi delle classiche scuole teologiche, forse sarete proprio voi, dopo aver letto questo contributo alla causa, ad accendere più dubbi in chi liquida il problema senza avervi personalmente riflettuto e senza averlo studiato approfonditamente di quanti oggi ne abbiamo noi. Una bella soddisfazione degli animali. Per la verità ci troviamo di fronte ad una possibilità del tutto nuova nel panorama teologico, ma dovremo riuscire ad attualizzare alcune tesi sulla vita e sul levo futuro della scuola. Non avendo in questa sede l'intenzione nemmeno la possibilità e la nobile aspirazione di studiare i testi dei dottori francescani, ci limiteremo ad indagare in modo quasi esclusivo le sacre scritture, che sono per tutti la fonte teologica per eccellenza. I capitoli successivi inizieranno tutti con una breve ma sentita rievocazione dei momenti salienti della vicenda tra me ed il mio cucciolo, che introdurrà la trattazione seguente. È fondamentale avere la pazienza di leggere anche le note, se no, cari lettori, sarete condannati a capire poco. Quello proposto è, tra l'altro, un riscontrabile materiale specialistico, confezionato apposta per gli addetti ai lavori, ma utile ed accessibile a tutti. Così iniziò la nostra storia. L.A. Creazione. I miei amici mi chiamarono sotto la tenda e sorridevano. Il sole stava tramontando con un corteo di colori che faceva rimanere a bocca aperta. I cavalli all'orizzonte tessevano un ricamo di libertà di fronte alla corte dell'Onnipotente, e il fuoco ardeva crepitando. I miei amici, gitani, i figli del vento, sorridevano e cantavano. Uno di loro si avvicinò e mi posò sul palmo della mano una specie di creatura, tremante e ciondolona, bianchissima, come una pallina di neve. Immediatamente, con la bocca, larga appena come un sospiretto, s'attaccò al mio dito più piccolo, quasi volesse mordere, senza denti, con le piccole gengive. Senti il tepore del suo cuoricino, che batteva impaurito e tremante. La mia donna s'avvicinò a noi, stavamo vivendo uno spettacolo ancestrale. Era il mio cucciolo e subito gli diedi nome. Avner! La testa di cane di Giuda. Era il mio piccolo generale e io il suo re, 19. Alcuni amici zingari mi fecero il dono di un cane. Questo divenne il mio cucciolo e gli diedi subito un nome, così come fece Adamo su comando. Divino, chiamò per nome gli animali. Il suo nome era Avner. Fu un'esperienza unica. L'esperienza della creazione e dell'armonia cosmica. Questo primo capitolo, che tratta della creazione di Dio, sarà un po' più ampio degli altri. Poiché è fondamentale chiarire a questo punto alcune linee di base della nostra riflessione. Siamo ormai lontano anni luce dalle sterili ed inutili polemiche di inizio Novecento con i cosiddetti modernisti o con tutti coloro che cercavano una concordanza fra le tesi creazioniste e quelle evoluzioniste in ordine al tema centrale di GN1 e GN2. Oggi nessuno più si pone il problema se Dio abbia o no creato il mondo dal nulla, o meglio nessuno se lo chiede perché la domanda è mal posta. La Bibbia, che è un testo religioso e non scientifico, non si pone il problema se dopo 2000 anni qualcuno avrebbe potuto mettere in discussione che tutto viene da Dio e a Dio tutto torna. No, nessuno. I problemi di oggi non sono certamente quelli che si pose il redattore di Genesi. La domanda è quindi mal posta. Dio ha creato anche se non sapremo mai come e dove. Punto. Il perché lo sappiamo, per amore, perché le creature godessero dell'esistenza assieme a Dio stesso. Non esistono quindi possibilità di mettere in antitesi i racconti della Genesi con le tesi evoluzioniste o darwiniane, in quanto i livelli di speculazione della scrittura e quelli della teoria evoluzionista sono posti su ordini diversi e non sullo stesso piano di analisi. La Bibbia parla di creazione come dono di Dio, e questo è un dato teologico e non scientifico, almeno se intendiamo per scienza ciò che dipende dalle cosiddette scienze positive. Cerchiamo quindi allora di capire teologicamente il messaggio di Genesi 1 e 2. Le verità che scaturiscono dai due racconti della creazione sono innumerevoli, e non è questa. Certamente la sede per avere un quadro dettagliato delle tematiche affrontate. Ci limitiamo ad una prospettiva che lasci campo libero ad un ulteriore sviluppo che possa farci arrivare al tema della risurrezione futura di tutti i viventi. Il primo dato del racconto della creazione però è questo. L'uomo ha il diritto-dovere di proteggere il creato e il mondo animale proprio per diretto mandato celeste. L'uomo è per Dio un vero e proprio amministratore dei beni terreni. Per ricordare che ogni vivente è posto sotto l'egida vigile dell'Onnipotente, la tradizione giudaica si affianca a quella evangelica. Nel discorso delle 19 Avner era uno dei generali del re di Israele David. Beatitudini Gesù fa riferimento alla misericordia di Dio per gli animali e alla premura che egli ha per loro. Simeante ben Yohai si sedette alla porta della grotta e vide un cacciatore che stendeva la rete per prendere gli uccelli. Udì allora una voce dal cielo che, in latino, diceva «Dimissio, rilascio», e l'uccello scappò. Allora egli disse «Nemmeno un uccello perisce senza il volere del cielo». 20. La provvidenza che Dio ha per i viventi è una delle caratteristiche peculiari del Dio della Bibbia. E anche il Nuovo Testamento non inficia questa lettura teologica del popolo ebraico. 21. Ogni cosa che abbia vita nell'universo è direttamente posta in essere e in collegamento diretto con Dio Creatore. Non esistono, agli occhi del Dio della creazione, vite senza senso o prive di valore. La vita, agli occhi del Dio Creatore, è vita. È un dono che proviene direttamente dal grande cuore di Dio. Dio ha pensato alla creazione come ad una immensa esplosione di amore e di gioia, voler rendere partecipe il creato, le creature, alla stessa vita che promana da Lui. Da dove nasce, quindi, la speranza che si inerpica nel mio cuore per un futuro che mi possa riconsegnare in un qualche modo il mio cucciolo? Da una certezza e da varie altre situazioni che andremo via via a richiamare, dal fatto che Dio abbia creato anime viventi e la vita, per Lui, è sacra e senza pentimento. Dio pone in essere creature alle quali affida niente meno che il suo stesso potere di infondere la vita, quell'energia misteriosa che i freddi elementi minerali primari non veicolano. La vita, con tutte le contraddizioni che la metafisica ha riscontrato nel corso dei millenni passati. La vita. Il miracolo della vita biologica, la quale appartiene, in modo difforme, sia a uomini sia agli animali. Tutta la speranza nasce dalla Bibbia e dalle tesi plurimillenarie che propone. Nasce dalla Bibbia. Non è questa la sede per dimostrare che quel testo è attendibile tanto quanto altre esimie fonti del sapere. Per altri, cioè per i credenti, la Bibbia è la parola di Dio. Un testo, o meglio una biblioteca, che per qualcuno è stata scritta da uomini, sì da uomini, ma vissuta dagli dei 22 e realizzata da Dio stesso. Siamo posti di fronte a un Dio che esplode, di amore 23, un amore diffusivo di per sé. Un Dio che, proprio per questo motivo, crea anime viventi, mette in dotazione a creature lo stesso potere che egli ha, e cioè quello di dare la vita, all'uomo come all'animale. Con una certa qual profonda ironia che lo ha da sempre contraddistinto quando parla di cose importanti, C.S. Lewis. Così definisce l'uomo. Amo creature composite, animali raziocinanti, imparentati da un lato con gli angeli e dall'altro con i gatti. 24. 20 YSHEB 38D, trattato Shebit del Talmud di Gerusalemme. 21 MT 10, 29, LC 12, 6. 22. Generalmente con il termine Dio si traduce un termine ebraico al plurale, Elohim. Per alcuni sarebbe una reminiscenza arcaica dell'antico politeismo. 23. Esplodere, per qualcuno potrebbe essere un verbo un po' forte, ma con questo termine intendo racchiudere tutte le teorie che conosciamo, compresa quella dello Zimzum, ovvero il creare di Dio ritraendosi, tesi conosciuta anche dalla letteratura mistica ebraica. Personalmente non condivido queste teorie un po' bislacche, ma voglio proprio racchiuderle tutte. 24. C.S. Lewis, i quattro amori. Affetto, amicizia, eros, carità, Yakabuk, Milano 2001, 94. Avremo modo di citare spesso questo autore, che era un grande conoscitore docente di letteratura inglese e faceva aperta professione di fede cristiana in un mondo decisamente laico. Questa definizione è molto importante oltre che simpatica, anche se Lewis deve aver pensato di fare soltanto una battuta. Spesso noi uomini reputiamo da Cartesio in poi d'essere degli angeli intuitivi che casualmente vivono precipitati in un corpo. In realtà siamo materia spiritualizzata e, anche dal fronte della conoscenza, con buona pace di Cartesio appunto, facciamo fatica a capire, studiare, apprendere. Non abbiamo nulla nella mente di preconfezionato. Siamo davvero parenti stretti degli animali. Quindi non è facile cogliere in modo immediato alcune verità che invece si acquisiscono appunto attraverso la mediazione del pensiero umano. Siamo perciò realmente e ontologicamente animali anziché angeli. Direi che il secondo 25 dato teologico fondamentale da recepire come pietra miliare è proprio questo. Il Dio della Bibbia è, in primis, il Dio della vita. Io sono la via, la verità, la vita, GV. 14.6. Vita è il nome proprio del Dio della Bibbia secondo se Giovanni almeno. Già la richiesta fatta ad Abramo di sacrificare Isacco, richiesta che poi rientrò, è la rivelazione che quel Dio, El Shaddaj, il Dio onnipotente, si differenzia dagli altri, dei, proprio perché è il Dio della vita. 26. Ora ciò che è divinamente posto in essere, la creatura animata, cioè, può forse scemare e svanire come la bruma al sole? Inoltre, sempre dalla Bibbia, sappiamo che l'animale ha come fine primario assegnatogli da Dio quello di fare, catechesi, di naturalità all'uomo evoluto e spesso agnostico come un sasso. Fra i vari compiti assegnati proprio agli animali da parte dell'Eterno vi è anche quello di manifestare globalmente la gloria del creato, ovvero una funzione che non esitiamo a definire rivelativa nel senso più pieno dell'espressione. Ma interroga ora le bestie, e ti istruiranno, gli uccelli del cielo, e te lo diranno, o parla alla terra, ed essa ti istruirà, e i pesci del mare te lo racconteranno. Fra tutte queste creature chi non sa che la mano dell'Eterno ha fatto questo, GB 12:7-9. Questo dunque significa il fatto che tutti gli esseri manifestano la loro origine da Dio. Si dice poi che l'uomo interroga le creature quando ci riflette sopra con attenzione, ed esse, interrogate, rispondono quando, avendo l'uomo meditato su di loro, ne conclude che l'ordine meraviglioso, che emerge dalla disposizione delle singole parti e dell'armonia del loro dinamismo, non può essere spiegato in nessun modo se non attribuendolo all'intervento di una sapienza superiore. Se poi tali creature sono fatte da Dio, è evidente che esse rientrano nel potere di Dio, così come un manufatto è nel potere di chi lo realizza. 27. Anche chi oggi, dal fronte fantascientifico, afferma che la teoria di Darwin esprime la verità assoluta dell'evoluzione, così come abbiamo ricordato, non inficia né la parentela dell'uomo con l'animale, né tantomeno la comune origine da Dio che plasma la materia dalla materia inorganica. Dove sarebbe la contraddizione con la scrittura? La Bibbia inoltre ci ricorda come l'uomo e animale siano fraternamente simili nei confronti del comune dono della vita e l'animale, con la propria vita e con il proprio servizio, manifesta all'intelligenza dell'uomo l'esistenza del Dio creatore. L'altro elemento della nostra riflessione consiste nel denominatore comune fra uomo e animale, cioè l'anima. 25, non per ordine di importanza, ovviamente. 26. Le divinità cananee invece richiedevano il sacrificio umano ai popoli che abitavano a fianco Israele, e quella realtà fu, per gli ebrei, da un lato affascinante, dall'altro verso fu censurata dai profeti e scabrosa. Le condanne del Pentateuco sono una preziosa documentazione storica in tal senso. 27s, Tommaso d'Aquino, o Funtu Cisto, 182. Non solo gli uomini, ma anche gli animali potrebbero insegnare quanto dicono gli amici di Giobbe. L'autore sintetizza l'universalità degli animali, docenti, animali, uccelli, rettili, pesci. G. Ravasi, Giobbe, Borla, Roma 21.984, 433. Portatore della vita è il corpo nel quale Dio soffiò il respiro vitale, Nefes. Questo respiro vitale si trova in ogni essere, senza eccezioni, non solo nell'uomo. 28. È un'affermazione forte, ma prende origine dalla tradizione biblica e impedisce all'uomo di ergersi in modo orgoglioso come unico essere vivente del creato. Oltretutto, biblicamente il termine nefes è identico sia per indicare l'uomo sia per indicare l'animale. Il contrario di naefes hajim non viene considerato come un inerente principio vitale legato al corpo, ma come un possesso, o più esattamente come un dono di salvezza. 29. Per salvezza si intende il primo principio della creazione. La creazione è infatti il primo principio della salvezza per le creature. La metamorfosi post mortem, come avremo modo di considerare, il definitivo, l'ultimo. Dunque, lo scopo di rivelare all'uomo la bellezza e l'utilità del creato è stato raggiunto dal regno animale, e ciò proprio da ogni singola creatura che è drammaticamente simile all'uomo, cioè dalla singola bestiola che entra in rapporto con l'uomo. Nonostante questa diaconia rivelativa operata dagli animali, le differenze fra questi due tipi di creature dotate di vita sono enormi, mentre certamente l'uno domina l'uomo e l'altro, l'animale, è dominato, ma in origine senza arbitri e violenze. 30. In questo panorama di vita le differenze devono rendersi manifeste, ma non per questo le differenze oggettive fra uomo e animale possono legittimare soprusi e disparità in ordine alla vita biologica comune. L'uomo dovrà proseguire il compito della creazione prendendo, in un certo senso, il posto di Dio quale buon amministratore del creato, senza spadroneggiare e calpestare la... Questa gestione multipla riguarda sia la natura sia l'animale. Paul Bosson 31 accorda molta importanza al rapporto tra l'uomo e l'animale, perché esso esprime qualcosa del rapporto dell'uomo con se stesso. Attraverso il rapporto uomo-animale, sul quale l'uomo è chiamato a regnare, e dunque il rapporto uomo-uomo, che è preso di mira. La dolcezza dell'uomo verso l'animale, dolcezza richiesta dal suo regime alimentare, è il segno di assenza di guerra fra gli uomini. Questo è il punto principale che costituisce l'uomo ad immagine di Dio. 32. 28 J. Gnil K. A. I primi cristiani. Origini e inizio della Chiesa. Paideia. Brescia 2000. 96-7. In nota 46 così continua l'autore. Basti ricordare Gen. 6-17. Il grande diluvio dovrà distruggere tutti gli esseri sotto il cielo che hanno in sé. Respiro vitale. 29 G. G. E. R. L. E. M. A. N. S. Versetto H. Y. X. In. E. Jenny C. Westermann. Dizionario teologico dell'Antico Testamento. Edit. A cura di G. L. P. R. Antico Testamento. O. 1. Marietti. Torino 1978. C. L. 480. 30 sui riferimenti biblici in ordine al rapporto di carità nei confronti degli animali. Confronta a Cohen, il Talmud, la terza, Bari 1935, 284-6. Hagia opposto a Behema. Nel racconto della creazione P, si narra Gin. 1-24-S, di come nel sesto giorno venissero create le Nefes Hage, cioè Hajat Ha, Arez uccelli e pesci. Per J le stesse categorie di viventi sono oggetto dell'atto di JTZR di Dio. GN 2.19. Confronta HRIN GGREN S. Versetto HYX Grande lessico dell'Antico Testamento ed Dintanita a cura di PG Bordone Vol. Secondo Paideia Brescia 2002, secondo 896, 948. 31 P. B. E. A. U. S. H. A. M. P. Création et Fondation de la Loi, in La Création de l'Orient Ancien, Cerf, Paris 1987, 139, 182. 32. A. M. A. R. C. A. D. O. U. R. Genesi. Commento teologico pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2003, 60. Le frange del mondo pacifista saranno felici di questo giudizio, che reputo senz'altro verosimile e corretto. Anche la tradizione rabbinica risulta sempre molto utile nell'analisi sulla creazione e sul rapporto fra l'uomo e il regno animale, proprio perché la Bibbia è sorta nell'humus della cultura ebraica. Per riflettere ancora sulla creazione e per commentarla, così si esprimono alcuni famosi maestri di Israele e di cui Rashi ci rende partecipi. 12. E domini sopra i pesci del mare, Gn 1.28, disse R. Tifda J. Se meriterà, dominerà, ma se non meriterà, sarà dominato. Gioco di parole. Leggi Ierede invece di Urdu. Disse R. Jacob B. Kefaranan, colui che è fatto a nostra immagine e somiglianza domini, e colui che non è fatto a nostra immagine e somiglianza, sia dominato 33. Inoltre, Nia 2, 19, allora, il Signore Dio formò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche. Questa formazione è lo stesso atto creativo di cui si parla prima. Dio fece le bestie selvatiche. Ma il testo viene ripetuto per insegnarci che gli uccelli furono creati dalle paludi. Infatti la scrittura prima dice che essi furono creati dalle acque, ma qui dice che furono creati dalla terra. Inoltre, il testo ci insegna qui che, quando gli animali furono formati, immediatamente meno, in quello stesso giorno Dio li portò all'uomo perché desse loro il nome. Secondo la Gadà, il verbo formare ha qui il senso di dominare e sottomettere. Come in «quando sottometterai una città». Dio infatti sottomise gli animali al potere di Adamo. 34. Alle nostre orecchie, il termine che oggettivamente deve fare difficoltà è e resta il verbo sottomettere. In che senso, ci si chiede oggi nel 2000, la natura, il creato, gli animali devono sottomettersi ad una creatura meno l'uomo, meno che negli ultimi secoli non ha certamente brillato per senso civico né per particolare amore per l'ecosistema. Biblicamente l'espressione ha un peso determinante e deve essere colta con tutta la pregnanza del caso. Sottomettere è da ritenersi non come una prevaricazione arbitraria, ma soltanto per un ordine di funzione. Quindi noi oggi diremmo: ognuno è preposto al proprio compito e alla propria funzione, o al proprio ruolo, e l'uomo ha l'intelligenza sufficiente affinché questo ordine naturale sia rispettato da tutti. Se così non fosse, dovremmo legittimamente ritenere che la sottomissione richiesta alla donna nei confronti del marito da parte dell'Apostolo Paolo, o la sottomissione richiesta al popolo nei confronti dei vescovi, confronta 1 Tim 3, 4, e F 5, 22, 23 S, sia un atto riprovevole contro la dignità della donna e del popolo. Infatti il termine di riferimento è lo stesso. Spesso dal mondo orientale è stata rinfacciata alla tradizione giudeo-cristiana una certa quale esasperazione economica di questo passaggio di Genesi, e la Bibbia è posta sul banco degli imputati quale colpevole della poca sensibilità verso l'ecosistema proprio del mondo occidentale. È inutile nascondersi dietro un dito. La Bibbia parla di sottomissione del creato all'uomo e dobbiamo rendere conto di cosa davvero si intende per sottomissione. Dobbiamo raccogliere questa sfida, perché è senz'altro vera, ma la prevaricazione non nasce dalla Bibbia. Anzi, la Bibbia stessa, e lo vedremo oltre, attribuisce questa prevaricazione al degrado dovuto al peccato originale. In Eden, questa funzione e questo ruolo della sottomissione e del sottomettere è scevro da qualsiasi valenza di sopruso o di mera proprietà e arbitrarietà. L'uomo non è il proprietario di nulla, ma soltanto l'amministratore delegato da Dio, dovendo rispondere delle proprie azioni agli azionisti di maggioranza, la Trinità. L'uso della metafora aziendale credo possa essere calzante. Condividendo lo stesso ambiente vitale, il giardino dell'Eden, Gan Eden, l'uomo e l'animale erano in un rapporto di ideale fraternità collaborativa, e questo dato cosmologico è riscontrabile in 33 Beresi Trabba 8, 12. In A Ravenna, commento alla Genesi. Beresi Trabba, a cura di T. Federici, UT e T. Torino 1978, 76. 34 RASHIDITROYS, commento alla Genesi, a cura di L. Cantico Testamento Tani, Marietti, Casale Monferrato 1985, 21. Tutte le teogonie e cosmogonie coeve al testo biblico, anche se non direttamente riconducibili ad esso. L'uomo non poteva assolutamente e non può tuttora abusare del creato in modo egoistico. L'uomo e l'animale erano quindi così intimamente legati. Chi vive con qualche animale sa perfettamente a cosa alludo, quale sia il grado di armonia che ancora oggi si riesce ad instaurare con il cucciolo che condivide la stessa aria e la stessa acqua, che Dio sentì il desiderio di condurre l'uomo e gli animali affinché proprio fra questi egli scegliesse l'aiuto convenevole per tutta la vita. Gin 2, 18, 20. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Allora il Signore Dio modellò dal terreno tutti i viventi della steppa e tutti i volatili del cielo, e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato gli esseri viventi, quello doveva essere il loro nome. E così l'uomo impose dei nomi a tutto il bestiame, a tutti i volatili del cielo e a tutte le fiere della steppa, ma per l'uomo non fu trovato un aiuto a lui corrispondente. Perché Dio pensò a fare degli animali l'aiuto convenevole per l'uomo, secondo la tradizione J, definito come i viventi? È possibile pensare che l'uomo volesse che Dio intervenisse fornendogli una creatura simile a sé e la richiedesse in modo esplicito? Ma è evidente che, in un primo tempo, Dio pensò ad un vivente amico inseparabile dall'uomo e che fosse già stato creato, e così fu. Solo in un secondo tempo, quando Adamo non trovò un aiuto convenevole per fare razza, Dio creò la donna. Vivente, questo il termine letteralmente, era l'uomo fatto di terra, e vivente era il vivente animale fatto di terra, entrambi erbivori ed entrambi in armonia con il creato. Non fu certamente per squalificare il futuro ruolo e funzione della donna che Dio per prima cosa avvicinò gli animali ad Adamo. ma anzi, fu proprio la descrizione della scelta ad opera di Adamo che fece funzione di pretesto per introdurre la pericope della creazione della donna. Crediamo che il testo voglia sottolineare ancora una volta l'estrema vicinanza ontologica fra Adamo e il regno animale, pur con le evidenti differenze. Il disprezzo per il mondo animale nel mondo occidentale, quindi, non nasce dalla Bibbia, ma ha ben altre matrici culturali per nulla attribuibili o imputabili alla scrittura. Questo disprezzo nasce storicamente nella cultura occidentale, soprattutto dalla filosofia e dal pensiero greco-romano. E oggi non sappiamo più quanto realmente siamo debitori a queste categorie del pensiero in palese contrasto con la mentalità semitica e biblica. Il mondo greco, e non vorremmo essere per questo accusati di strumentale generalizzazione, disprezza gli animali e la fede cristiana che si è acculturata secondo questi specifici parametri ellenistici, si è adeguata alla cultura senza modificarla, come avrebbe dovuto, saputo e potuto. La stessa protervia espressa dall'antropologia teologica verso il mondo animale la si riscontra tutt'oggi anche nella romita ma possibile ipotesi di una vita extraterrestre, anch'essa degna d'essere studiata e considerata alla luce del dogma della creazione di un Dio che è Dio del cielo, della terra, ma anche dell'universo, Adon Olam, ovvero Signore dei mondi. Crediamo che l'analogia possa essere fatta e che sia anche molto calzante. Citiamo un autorevole referente a tal proposito, così che i nostri critici si troveranno in buona compagnia. Che in un cosmo tanto smisurato esistano da qualche parte gli stessi presupposti chimici e fisici che da noi hanno portato alla nascita della vita, e che tale vita si sia poi sviluppata secondo le leggi rigorose della evoluzione. Verso qualcosa che per l'essenziale ci assomiglia, non può apparire semplicemente e puramente inverosimile. Ma per ora nessuna risposta precisa è possibile, e dunque questi eventuali esseri viventi al momento non hanno per noi sotto il profilo esistenziale e teologico una importanza maggiore di quella di una stella morta esistente in qualche parte dell'universo. Antakrahner sugli angeli o.cist P512 CF, però, pensisico testamento TI, la Bibbia e les extraterrestres. Erlaf Nuovo Testamento, Paris 1977 C. Tresmo Nuovo Testamento a Nuovo Testamento. Cristianesimo, Filosofia, Scienze. Jakabuk, Milano 1983. P. Tilon, PTA 226 267-35. È interessante inoltre riportare la discussione a livello biblico citando uno dei più prestigiosi esegeti veterotestamentari che, in una sua opera recentemente tradotta per il pubblico italiano, analizzando proprio i primi capitoli di l'autore lascia però aperto il campo ad ulteriori approfondimenti davvero interessanti. Nonostante la ovvia matrice antropocentrica della teosofia di alcuni quotati ambienti cristianizzanti, prendendo in analisi proprio i primi testi genesiaci, ci si chiede che tipo di viventi abbia a che fare con Dio agli albori della creazione. L'unica distinzione che viene fatta è quella tra creature umane e non umane. Nei vari testi l'interrelazione tra queste due categorie viene presentata in tre modi. A. Viene trattata collettivamente, senza differenziazione. Tutti si pongono davanti a Dio allo stesso modo, creature dinanzi al loro creatore. L'Intershare 9:9-10. B. Le creature umane vengono trattate come superiori e quelle non umane, come subordinate 1:25-30-2:15. Le creature umane sono delegate a comandare, dominare e custodire le altre creature 36, e queste ultime devono ubbidire e sottomettersi alle creature umane. C. Altre volte i testi sono radicalmente antropocentrici, 11:1-9 si interessano solo alle creature umane, trascurando il resto della creazione. Questi tre modi di parlare della creazione causano ovviamente una certa contraddizione interna. Dati questi diversi modi di parlare della creazione, non è cosa semplice generalizzare sulla creazione. A fini teologici è importante distinguere le tre modalità. Ciascuna di esse viene usata quando la tradizione affronta una diversa problematica o dimensione della realtà. Nel complesso, il discorso della creazione tende ad essere antropocentrico. Il testo si interessa in primo luogo della creatura umana. E quando viene menzionato il resto della creazione, prevale la tendenza a interessarsi come le altre creature si relazionino alla creatura umana. 37. Questa tendenza interpretativa tipica del mondo protestante è però anche in gran parte condivisa da diversi esponenti di grido del mondo cattolico. La matrice che potremmo definire come antropocentrica è reale, ma non si può travalicare. Da questa considerazione all'ipotesi sulla risurrezione del regno animale dopo la morte, il passo è breve e soprattutto in collegamento. In un suo classico testo teologico, uno dei più grandi rappresentanti del pensiero cattolico, Le Journet, si chiede se nell'aldilà ci sia posto per la vita animale. È esattamente lo scopo di questo libro e di questo studio, quindi la domanda non è leziosa vista la fonte autorevole. Non è lecito. 35 G. Gozzellino, Vocazione e destino dell'uomo in Cristo, L.E.D.C., Torino 1985, 419. 36. Il mandato alla custodia delle creature inferiori viene applicato da Noè il giusto, colui che teme Dio, il prototipo dell'uomo religioso. La dignità dell'uomo consiste anche nel custodire il creato subumano. 37 W B R U E G G E R M A N N Genesi e Disit. A cura di T. Franzosi, Claudiana, Torino 2002, 29-30. Quindi per nessuno non considerare questa ipotesi teologica davvero essenziale per l'ecosistema e per il mondo a venire. Premetto che, come autorità somma del pensiero tradizionale della cristianità 38, l'autore esclude in modo netto ogni possibilità di risurrezione della vita animale nell'evo futuro. Motiva questa semplice ma netta posizione citando S. Tommaso e altri sommi maestri del pensiero e della scienza teologica del mondo cristiano. 1. Dio può risuscitare un uomo, ma Dio non può fare ciò che vuole. Quando Gesù risuscita Lazzaro, è l'anima stessa di Lazzaro che viene infusa in un corpo entrato in decomposizione, non è già più un corpo umano, per riformarlo nuovamente, vivificarlo, rifarlo suo, di modo che Lazzaro, dopo la risurrezione, è la medesima persona, identica, dal Lazzaro di prima della risurrezione. Ciò è possibile solo perché l'anima di Lazzaro, essendo spirituale ed immortale, e non è stata toccata dalla sua separazione dal corpo. È rimasta intatta, è sopravvissuta. Ma Dio, che può risuscitare un uomo, non può risuscitare un animale, non può. 39. Può senza dubbio ridare la vita al cadavere di una tigre, ma che cosa accadrebbe allora? La prima anima che vivificava quel corpo è stata annientata dalla morte. Ma può un'anima essere annientata come affermano i testimoni della torre di guardia? Anche se non è spiritualizzata dallo spirito di Dio che la rende ad immagine sua, poiché non era in grado di sussistere anche solo un secondo senza il corpo, era la tesi classica di Aristotele. Dio non può ridare la vita a quel cadavere se non infondendogli un'altra anima, numericamente distinta dalla precedente, non creata dal nulla come l'anima spirituale dell'uomo, ma emersa dalla materia, prodotta dalla potenzialità della materia, di modo che l'animale rianimato non potrebbe essere numericamente lo stesso di prima. Non è possibile che gli animali del nostro mondo possano risuscitare nell'aldilà. 40. Questa è una posizione certamente autorevole di matrice evidentemente filosofica, ma poco biblica. L'approccio filosofico è senz'altro legittimo, ma l'ipotesi della risurrezione e della metamorfosi degli animali post-mortem ha come fonte primaria, salvo prova contraria, proprio il Nuovo Testamento. Quindi alla scrittura che dobbiamo guardare nell'affrontare il tema della risurrezione e metamorfosi dei viventi. Biblicamente, ovvero dal versante strettamente esegetico, l'affermazione che l'anima dell'animale è intesa come riportiamo l'opinione di S. Tommaso, dottore comune della Chiesa Cattolica. Diversamente da quella dell'uomo, l'anima dell'animale non è sussistente, i cui 75-3. Perciò li ha, non esisteranno nel secolo futuro. Non ci è un paradiso anche per gli animali. Gli animali bruti, le piante, i minerali e tutti i corpi misti si corromperanno sia come totalità sia nelle loro parti. tanto secondo la materia, la quale perde la sua forma, tanto secondo la forma che non rimane in atto. Quindi, codesti esseri non hanno nessun ordine all'incorruttibilità. Dunque, nel rinnovamento finale, essi non rimarranno, ma soltanto le creature incorruttibili, supl, Q91 a 5, B, mondin, animale, dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso d'Aquino, ESD, Bologna 1991-49. È davvero strano questo sillogismo tipico di una certa qual tradizione cristiana, ovvero, visto che gli animali non possono né meritare il paradiso né tantomeno l'inferno, in quanto la loro anima è legata esclusivamente all'istinto, sarebbero esclusi dalla sopravvivenza oltre la morte, escludendo quindi a priori una qualsiasi altra forma di sopravvivenza immortale per la loro anima o per qualsiasi altra forma di trasformazione e metamorfosi ultraterrena. È una equazione che non regge. 39. Ci rendiamo conto che in questa sede l'autore usa il verbo potere in senso analogico, in quanto Dio nella sua onnipotenza può ovviamente fare ciò che vuole, anche far parlare l'asina di Balaam, che non dovrebbe proprio per la stessa argomentazione addotta dallo Giornè. 40c. J-O-U-R-N-E-T, il male, saggio teologico. Borla, Torino 1963-162-3. Assoluto 41, in quanto in ebraico la parola anima indica la globalità della creatura vivente, e non soltanto la dimensione spirituale e immateriale della creatura vivente. Anche l'uomo, il terrestre. Adam Adama, in Ebr. Uomo è simile alla terra, così come l'animale è tratto appunto dalla terra e dell'uomo non è detto che sia stata la terra a produrlo, anche se è tratto dalla terra, è Dio l'autore dell'atto creativo. Di più e di diverso dall'animale, l'uomo si distingue per il possesso dello spirito, che ritorna a Dio dopo la morte e che lo qualifica come essere superiore nel creato sensibile. La cosiddetta tesi della tripartizione uomo composto di anima, spirito e corpo non può essere semplicisticamente relegata alla scuola agostiniana e francescana, ma è scritturistica e non possiamo prescindere da questa. Che poi in ambienti gnostici si sia basati in modo esclusivo sulla tesi della tripartizione sta a significare che nel mondo eterodosso si faceva un uso della Bibbia più capillare che nella cosiddetta grande chiesa. Ma nonostante questa netta chiusura ad ogni ipotesi di risurrezione degli animali attestata dallo Journè, e che ho scelto appositamente perché riassume in modo impeccabile le tesi pardo propugnate nella tradizione cristiana fino agli anni 60, appunto il grande teologo francese, imbattendosi con una tesi dell'apostolo Paolo apre ad una possibile soluzione ad uno sviluppo. E se un grande studioso come lo Journè si pone il dubbio, anche noi dobbiamo quantomeno porre il problema a chi pensa di sapere tutto. Rimangono le cui modalità ci ma rimane un problema per lui, non certo per noi. Anche in questo caso si noti la sua grandissima onestà intellettuale. Fra il mondo dei corpi degli eletti risuscitati e glorificati a somiglianza del Cristo ed il mondo minerale dei nuovi cieli e della nuova terra, Apoc 21 Ita, secondo Petra. Terzo 13, ci sarebbe posto nell'aldilà per delle forme di vita o vegetale o animale, totalmente sconosciute e inimmaginabili quaggiù? È nota la risposta di San Tommaso, De Potentia Q5, A 59. Da una parte, in virtù di un'esegesi oggi abbandonata a Apoc X, 6 non significa che il tempo cesserà, ma che non ci sarà più né oggi né domani. Egli pensa che il movimento dell'universo che quaggiù dà origine alla complessità degli esseri e alla vita biologica cesserà. D'altra parte, il corpo dell'uomo, non essendo più animale ma spirituale, Icor 15:44, non avrà più da cercare l'aiuto né la compagnia del mondo delle piante e di quello degli animali. Il problema è stato ripreso poco tempo fa da Oliver Lacombe. Alla fine di un recente saggio sull'animale e l'uomo di questa cieche la vie. Semen des intellectuels catholiques, 1986-102. Dopo aver confrontato i due testi di San Paolo, riunire tutte le cose nel Cristo, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, Efesempio 1, 10:42. anche la creazione attende con ardente desiderio la manifestazione dei figli di Dio, con la speranza di essere liberata essa pure dalla schiavitù della corruzione, per partecipare alla libertà gloriosa dei figli di Dio. Rom. 8:19 seguenti, egli domanda: questa creazione di cui ci parla l'Apostolo non comprenderebbe il regno animale? La domanda è senza dubbio indiscreta, sebbene ogni tentativo di risposta debba essere straordinariamente discreto. Ed ecco le sue riflessioni. Osserviamo prima di tutto che, dando una risonanza cosmica al dogma della risurrezione della carne, conseguenza dell'incarnazione e della redenzione, San Paolo si colloca nell'economia della grazia e non fa appello ad alcuna esigenza di giustizia e neppure ad A41. Anche se il testo recita: «La terra produca esseri viventi», confronta Neem 1:24-42. Tutto il cosmo ha in Cristo il punto d'incontro, il punto di convergenza, colui che gli conferisce unità e significato. E, P, E, R, R, E, T, T, O, lettere dalla prigionia. Filippesi, Filemone, Colossesi, Efesini. Lettera agli Efesini, NVB, Edizioni. Paoline, Roma 31.984-204. Alcuna suggestione di convenienza derivante dall'ordine naturale. È dunque per un'eccedenza di generosità totalmente gratuita che la nuova terra dell'Apocalisse 21:1 sarà liberata dalla schiavitù della corruzione. Dal momento che questo mondo inaudito, nato dalla grande trasfigurazione escatologica, obbedirà alle leggi di una nuova fisica senza alcuna comunanza di misura con quelle della nostra fisica, non è possibile pensare che l'ordine della vita infrarelazionale vi sia pure rappresentato ma sottoposto alle leggi della nuova biologia. Può darsi, dopo tutto, che ciò non sia inverosimile. E senza immaginare alcun destino postumo alla vita animale, in quanto realizzata in ciascuno degli animali che vissero, vivono e vivranno nel tempo, non chiudiamo a questo grado dell'essere, che è la vita irrazionale nella sua accezione di momento ontologico, gli accessi che l'Epistola ai Romani sembra non negare loro. 43. Aggiungiamo a questa apertura dello Journée un'altra possibilità vista dal versante della escatologia cristiana così cara al Card. G. Biffi. Il destino del cosmo è l'attuazione del disegno di ricapitolare in Cristo, ricapitolazione che avverrà nel superamento di quelle doglie del parto, nelle quali non solo l'uomo ma l'intera creazione sta gemendo, nell'attesa di diventare quel nuovo cielo e quella terra nuova, Atto 21:1, dove dimorerà stabilmente la giustizia. Confronta 2 Pt 3:13, confronta 2 Cor 5:1. Stando a questi passi biblici, quindi, un giorno tutto l'universo si insublimerà, trasfigurandosi come il corpo di Cristo risorto. 44. Non ci è che dire. Una bella e inattesa apertura universale a proposito di una sopravvivenza della vita subumana, dopo la morte, tutta tesi ad una misteriosa ma certa fase di trasformazione cosmica del creato, dichiarata proprio da chi, in modo esplicito, ha asserito di non credere all'ipotesi della risurrezione animale. Onestà intellettuale. Fossimo tutti così onesti e intellettualmente coerenti con le nostre conoscenze. Ma a ben vedere, il problema e l'istanza propositiva potrebbero derivare anche da quella che oggi definiamo psicologia animale, e in questo settore le scuole sono tante ed idee francamente opposte. Riprendendo il Lewis, focalizziamo uno di questi problemi psicologici. La vera difficoltà nel supporre che la maggior parte degli animali sia immortale sta nel fatto che l'immortalità non ha quasi significato per una creatura che non è consapevole, nel senso spiegato sopra. Se la vita di un tritone è semplicemente un susseguirsi di sensazioni, che senso avrebbe dire che Dio potrebbe richiamare alla vita il tritone che è morto oggi? Esso non si riconoscerebbe come lo stesso tritone. Le sensazioni piacevoli di un qualsiasi altro tritone che vivesse dopo la sua morte sarebbero una ricompensa per le sue sofferenze terrene, se ne ha avute altrettanto grande o piccola di quella del suo. Stavo per dire io risorto, meno ma il punto è che il tritone probabilmente non ha un io. 45. 43C. Journet, il male. Saggio O. Ciristo, 163-4. 44 e Castellucci, nella pienezza della gioia pasquale. La centralità dell'ermeneutica nell'escatologia cristiana, in Sacra Doctrina, 3-4, ESD, Bologna 1998, 233. 45 C.S. Lewis, il problema della sofferenza, T.R. It, S. Rizzardi Betti, Tit. Or the Problem of Pain, Geoffrey Bless, 1940. Il Lewis scriveva queste cose il secolo scorso e non conosceva assolutamente le recenti scoperte scientifiche sul mondo animale, se no, cosa avrebbe potuto dire sulle cliniche psichiatriche per animali che incontriamo negli Stati Uniti? Sono matti anche i veterinari e i psicologi degli animali. In America. La Sacra Scrittura non prende in esame, ai fini della rivelazione, gli aspetti psicologici del mondo animale, e quindi non sappiamo mai completamente dalla Bibbia se un animale è o no cosciente di esistere. Certa è una cosa, per Dio la sua creatura esiste, e come? Avremo modo di considerare più avanti come la Bibbia, nonostante tutto, riconosca all'animale una certa coscienza, specialmente nel dialogare con l'uomo e nell'ubbidire alla voce di Dio, al di là del semplice istinto. Alcuni elementi comunque interni a vari testi ci indicano questa possibilità, anche se in modo vago e non formalizzato. È evidente che in questa ricerca non vogliamo indagare dal versante della psicologia. La teologia deve tener conto di queste istanze delle scienze positive. Ma la fonte primaria, proprio per una corretta metodologia, resta e rimane la scrittura e il deposito della fede, e l'indagine conseguente avrà lo scopo di appurare se e come ci sarà la risurrezione del mondo animale al momento della parusia. L'indagine primaria deve essere desunta proprio dal libro principe della verità divina, la Bibbia. In definitiva, su quali elementi si fonda, per gli eminenti specialisti, la tesi sulla impossibilità della risurrezione degli animali? Oltre ai temi suindicati, possiamo elencarne altri due, o meglio, possiamo dividere in due categorie il fronte del no. Il primo gruppo si identifica, grosso modo, con questa tesi. 1. Chi, nella propria antropologia, vede l'uomo come un composito di spirito, anima e corpo, riscontra, nello spirito, quell'elemento soprannaturale deputato ad operare il risveglio dell'anima, e che è posto da Dio soltanto nell'uomo. 2. L'altro versante, che vede un vero e proprio dualismo fra anima e corpo, considera immortale l'anima, nel modo con cui lo Journet definisce l'anima degli animali diversa da quella umana, per il fatto che la prima anima è prodotta dalla terra, mentre quella umana è direttamente insufflata da Dio stesso. In questa ipotesi, la ruach, il soffio, lo spirito, si identifica con il nefesh, l'anima. E sappiamo che, biblicamente, questa tesi è deficitaria e scorretta, ma a ben vedere sia la prima tesi sia la seconda sono sufficientemente problematiche da spaccare il fronte del no in due tronconi che, pur convergendo verso una sola direzione, in realtà sono fortemente antitetici e, se plausibili, arriverebbero comunque a delidersi. Infatti, secondo la prima ipotesi, che peraltro la teologia classica non segue, salvo alcune frange dell'agostinismo e del francescanesimo, si dovrebbe ipotizzare che un principio spirituale, lo spirito che viene da Dio, sia il solo elemento immateriale che sussiste di per sé oltre la morte. E quindi sarebbe l'unico principio costitutivo dell'essere umano che può ridare. Questa ipotesi però introduce, contro il secondo versante, quello classico, che l'anima possa in un qualche modo perire e che quindi non abbia in sé elementi di immortalità. Nel secondo caso, non considerando lo spirito, o meglio, identificandolo con l'anima, si introduce un elemento che, a livello di analisti testuale nella scrittura, non trova riscontri. Ovvero l'anima dell'animale sarebbe qualitativamente diversa dall'anima dell'uomo. Viceversa, questo versante di considerazioni antropologiche e cosmologiche si fonda esclusivamente ed unicamente su elementi dualistici di matrice pitagorica, orfica e canonicamente platonica. La Bibbia, in questa prospettiva, risulta un pretesto alla discussione e niente più. Non credo sia sufficiente questo dato parziale ed extrabiblico per non prendere in seria considerazione anche l'ipotesi di una risurrezione e metamorfosi per gli animali. L'altra critica che dovremmo muovere è questa: non si può considerare come elemento discriminante il fatto che solo l'elemento spirituale, in quanto immortale, divenga lo strumento sul quale Dio farà leva per la risurrezione. Chi si identifica col gruppo 1 considera anche l'anima come elemento costitutivo mortale, esattamente come il corpo, lasciando lo spirito che viene da Dio, il solo principio immortale dell'uomo. Questa posizione evidentemente è diametralmente in opposizione con la seconda ipotesi, quella per intenderci dualista. Ora, se limitiamo la valutazione alla seconda ipotesi, è ovvio che anche il sottoscritto considera immortale l'anima, ma, proprio per questo, essa risulta come un elemento capace di ristabilire la forma di un corpo trasfigurato. Nel primo caso, viceversa, anima e corpo subiscono la stessa sorte, ma lo spirito che agirebbe sul corpo, materia che è simile a quello delle bestie perché non dovrebbe vivificare l'anima spirituale che è vivente come quella dell'uomo, l'Apostolo Paolo pone delle opportune differenze fra i tipi di carne o materia, se preferiamo, nel creato, ma il contesto è sensibilmente diverso dal nostro. Egli riferisce di una diversità sostanziale fra la carne spirituale e quella materiale, fra quella dei pesci e quella degli animali terrestri. Ma egli ricorda queste diversità soltanto per racchiudere ogni creatura nella limitatezza della sorte comune, la morte. Se Paolo paragona la risurrezione alla semina e alla germinazione di un seme, quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano, per esempio, o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come è stabilito, e a ciascun seme proprio corpo. Non ogni carne è la medesima carne. Altra è la carne di uomini e altra quella di animali, altra quella di uccelli e altra quelli di pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti e altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da un'altra nello splendore. Così anche la risurrezione dei morti. 1 Cor 15:37-42. In questo testo sono enunciati due pensieri fondamentali. Primo, la forza della risurrezione assomiglia all'energia germinativa del seme. Secondo, si nota una differenza tra gli stessi semi e corrispondentemente anche tra i loro corpi. L'energia germinativa del seme, dato che essa è inerente alla creazione di Dio, è un mistero naturale, accessibile nelle sue manifestazioni alla nostra osservazione e indagine. Qui viene stabilita una differenza qualitativa tra il seme e la sua energia, tra un semplice chicco e a ciascun seme il proprio corpo. Il chicco di grano muore nel suo presente involucro, ma con ciò non viene distrutta la sua energia qualitativa, la sua idea o la sua entelechia. Nel processo germinativo non abbiamo altro che la ripetizione di crescite completamente simili. Da una parte abbiamo una crescita qualificata a partire dal seme, cioè una persona che è già presente nella creazione ma che soltanto adesso risuscita, e dall'altra la forza germinativa del seme, forza inerente al ristabilimento della vita. 46. Cosa si intende poi per carne spirituale? Se si dovesse avere in mente l'aspetto dualista del creato, evidentemente non potremmo avere una risposta chiara. Sembrerebbe infatti una contraddizione in termini, ovvero carne, materiale, e spirituale, evanescente, immateriale. Cerchiamo di chiarire, fin dove sarà possibile, questa apparente aporia. È la carne uscita dalla creazione ma animata dallo Spirito di Dio, resa quindi idonea alla metamorfosi che abilita alla vita celeste. Quando parliamo di spirito, quando diciamo che Dio è spirito, che cosa vogliamo dire? Parliamo greco o ebraico? Se parliamo greco, diciamo che Dio è immateriale, eccetera. Se parliamo ebraico, diciamo che Dio è 46 S.N. Buljikov, la sposa dell'agnello. la creazione, l'uomo, la Chiesa e la storia, e D.B., Bologna 1991, 633-4. Un uragano, una tempesta, una potenza irresistibile. Da ciò tutte le ambiguità. Quando si parla di spiritualità, la spiritualità consiste nel diventare immateriali o nell'essere animati dallo Spirito Santo. 47. Se parliamo da cristiani, parliamo di una persona ben precisa. Una persona che inabita il cristiano, quindi lo spirituale, colui che è animato dallo Spirito di Dio, e la carne spirituale è la nuova dimensione del fedele in attesa della parusia, il ritorno di Gesù Cristo nella gloria. Il cristiano è un altro Cristo, già trasfigurato dalla risurrezione, tutto ciò che è in un qualche modo collegato con lui, è già nell'altra dimensione. Così come ai giorni nostri è diventato primario lo sforzo da parte degli ambienti teologici e pastorali di rendere sempre ottimale l'inculturazione del Vangelo nei paesi di missione, così era, evidentemente, per la Chiesa delle origini nel mondo greco e nel mondo romano. L'ellenismo influenzò naturalmente i primi cristiani, sia direttamente, sia in virtù di una mediazione giudaica. L'ellenismo fu un culturalismo se non una cultura coerente, un approccio che riservava a ognuna delle varie scuole e tradizioni ampia udienza, e le cimentava con la richiesta di esprimere le proprie ragioni. Si coglie nell'ellenismo un apprezzamento per l'argomentazione, forse un debole per la replica facile, ma anche una capacità di nuova riflessione e razionalità. Vera in tutto questo un cosmopolitismo che esigeva principi meno divini o meno che potevano ragionevolmente essere ritenuti veri da tutti i popoli in ogni tempo. In breve, l'ellenismo era assai diverso da qualsiasi altro tipo di tradizionalismo, ed in virtù di questa sua differenza pluralizzante, poteva trasformare qualsiasi tradizione. Così vediamo personaggi come Flavio Giuseppe e Paolo Barasaulo di Tarso mettere alla prova una tradizione in un primo periodo della loro vita e adottarne un'altra nella maturità. Non si può dimenticare la realtà dell'impero romano, che collezionava nel proprio Pantheon rappresentazioni di dei e dee. L'impero era composto da un apparato amministrativo di livello internazionale che era tuttavia segnato da una originaria cultura civile troppo angusta. La vita culturale assomigliava in qualche modo alla situazione delle università moderne e delle società multinazionali, spesso interessanti e produttive a livello del personale intermedio, dove le influenze, libero gioco ma abbastanza esterne, possono avere condizionate da ambizioni puerili ai livelli superiori. 48. Relativamente. Lo spirito è ciò che di Dio viene nell'uomo e, al termine della vita di quest'ultimo dall'uomo, ritornerà a Dio che l'ha mandato. Ciò che nella Bibbia è definito come spirituale indica che è animato dallo Spirito di Dio e non che è evanescente. Questo dato teologico è fondamentale ed è da recuperare quando dovremo trattare nello specifico la risurrezione e metamorfosi degli animali, che non hanno lo spirito ma che hanno l'anima come principio spirituale unitivo della materia. Esattamente come l'uomo. Alla luce di queste considerazioni oggettive possiamo ricordare quindi che ogni tentativo di ridurre ed ignorare ogni possibilità di una risurrezione metamorfica e cosmica della materia non poggia sulla scrittura ma esclusivamente sulla filosofia o spesso addirittura sulla teosofia. E 47 già Danielu, l'horizon patristique. Testo composto prima in Le Point Théologique 1. Istituto Cattolico di Parigi. Orientations Actuelles, Parigi, 1971, 22-23, in YCONGAR, Credo nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo nella Triunità Divina. Riflessioni teologiche, Querignana, Brescia 1998, 18. In nota 2 abbiamo anche Che cosa è Dio? È uno spirito al che ella osserva. Quando la Bibbia diceva Dio è spirito, intendeva confessare che Dio è il solo vivente che non abbia ricevuto la vita. Egli è. Adesso invece, forse ci è passato sopra l'idealismo di Cartesio, essere uno spirito significa non avere il corpo. Languages de la Foi à travers l'histoire, Parigi 1972, 90. 48 a Blasi. La dinamica non sincretistica nel cristianesimo giovanneo, religioni e società 24 primi, 1996, 40-41. Davvero troppo complessa la dimensione, per così dire, spirituale, per ridurla all'evanescenza, all'immaterialità, o, peggio ancora, relegarla alla mera esistenza umana. Gli studi di pneumatologia teologica sono rarissimi e polarizzati in modo esclusivo all'uomo e sull'uomo. Ecco perché la scrittura è e deve rimanere la fonte primaria per ogni teologia, anche se strana e apparentemente inutile. Ed è proprio la scrittura che amplia in modo decisivo la dimensione spirituale anche al mondo subumano. Basta chiarirsi nei termini e poter essere liberi dalla inculturazione unilaterale. Ma cosa afferma l'attuale esegesi a proposito dei brani riportati dallo Journé anche dal versante culturale? Un noto ed autorevole esegeta cattolico, P.U. Vanni S.J., nel suo commento alla lettera ai Romani, esprime un giudizio molto sobrio, ma altrettanto importante, al fine della nostra ricerca. L'attesa spasmodica delle cose create sta infatti in aspettativa della manifestazione dei figli di Dio. Le cose create infatti furono sottoposte all'insulsaggine peccatrice, non di loro volontà ma in forza di colui che ve le sottopose, nella speranza che anch'esse, le cose create, saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per ottenere la libertà propria della gloria dei figli di Dio. Troviamo in questo versetto RM 8:20. Ci limitiamo a considerare il versetto 20 e 21. E nel seguente una spiegazione, espressa sempre in termini per lo più analogici, di questa attesa. Le cose create, tutto ciò che esiste nel mondo, eccettuato l'uomo, riceveranno qualcosa, e seppure al momento della manifestazione dei figli di Dio, in dipendenza da essa, è qualcosa di essenziale per loro. Esse infatti hanno subito, non di loro volontà, cioè non secondo il loro essere, un'imposizione. L'uomo, peccando, ha introdotto nelle creature un elemento loro estraneo, insulsaggine peccatrice, una specie cioè di vuoto morale, una lacuna collegata col male morale. Entrano in questa prospettiva alcune espressioni del Vecchio Testamento, segnatamente Ne 3:17, maledetta la terra per causa tua, di Adamo. Ovviamente, pur sottoposta a questa imposizione loro estranea, le creature sono quasi in uno stato di speranza, rientrano anch'esse nel quadro della salvezza, che si attuerà completamente con la seconda venuta di Cristo. 21 viene spiegato l'oggetto della speranza. Le creature, perfino loro, parteciperanno alla gloria completa dei figli di Dio e sarà caratterizzata dalla liberazione da ogni negatività, da ogni male, sia morale che fisico. Ricordiamo che il male maggiore è la morte. Ad essa parteciperanno anche le creature liberate dallo stato di sottomissione forzata in cui si trovano adesso, cioè dalla schiavitù della corruzione. Possiamo dire che in questa espressione è racchiuso quello che è il peccato originale delle cose create, una carenza nell'ordine fisico messa in relazione col peccato dell'uomo. Data la personificazione letteraria di tutto il contesto, non possiamo affermare con esattezza in che consiste questa carenza. Forse si tratta delle continue trasformazioni a cui è soggetta la natura e che implicano una evoluzione, quindi un superamento da attuarsi progressivamente. E, per ciò che è superato, il venir meno, la corruzione. Una volta raggiunto il punto massimo dell'evoluzione, la natura potrebbe considerarsi liberata dalla sua corruzione. Ma, mentre questa ed altre ipotesi sono dei tentativi di spiegazione, resta certo il fatto fondamentale: la salvezza si estende a tutto l'universo umano, infraumano, fisico. 49. Se per salvezza si deve intendere non soltanto la non imputabilità del peccato, per gli animali come sarebbe possibile, ma bensì la risurrezione intesa proprio come salvezza che opera al di là della giustificazione, tanto per seguire la terminologia paolina, come sarebbe quindi possibile escludere da questa grandiosità proprio le creature animali? Un altro esimio commentatore, in una sua recentissima opera, ha indirettamente tracciato un identikit molto dettagliato di questi tre versetti della lettera ai Romani, così gravidi di attese e speranze. Tra le sofferenze e, senza preparare i destinatari della lettera, Paolo allarga gli orizzonti. la partecipazione alla gloria della relazione, soffermandosi sui gemiti della creazione. Per questo è difficile stabilire l'identità della Kappati Isis, mondo creato. Cosa intende Paolo con la creazione? Si riferisce all'atto creativo di Dio oppure alla situazione definitiva della creazione? Già Agostino ricordava che tutto il capitolo 8 è oscuro perché non è sufficientemente chiaro cosa intenda l'Apostolo con creatura. Parentesi aperta, parentesi chiusa. Non rimane che l'interpretazione cosmologica, ed è quella che meglio si contestualizza nel genere apocalittico che caratterizza questi versi. La creazione condivide, volente o nolente, il destino dell'umanità, nel bene e nel male. A causa di questa condivisione si assiste, in questi versi, a una significativa personificazione della creazione. Essa è come una persona ridotta in condizioni di schiavitù, con la ferma speranza di essere liberata. L'uso del suffisso minosis accanto alla radice KTI permette di cogliere l'aspetto dinamico della creazione, a differenza da kappartisma che ne esprime quello oggettivo o definitivo, oltre a RM8:19. Questo sostantivo si trova soltanto in Phil 1:20, mentre è assente nella LXX e nel greco classico. Forse possiamo parlare di un neologismo paolino. Come una persona umana, la creazione attende la rivelazione dei figli di Dio che si compirà soltanto con la piena rivelazione della gloria. 50. Essendo l'uomo lo scopo della creazione, l'esistenza di essa si decide in lui. Tutte le tensioni delle creature non umane, quindi ogni impazienza del creato, si indirizzano all'uomo. La creazione infatti è stata sottomessa alla caducità per volere di colui che l'ha sottomessa, perciò geme e soffre nelle doglie del parto. Tutte le creature sono condizionate dall'uomo e dalla sua relazione con Dio. 51. E il Pitta così conclude questo delicato esame di un testo davvero oscuro. Proseguendo nella rilettura delle prime pagine della creazione, si può notare che Paolo inserisce l'elemento nuovo della speranza di cui non si parla in Gen 2:3. In questo sguardo sul futuro disegno divino, prosegue la personificazione della creazione. Essa è come uno schiavo che sarà liberato per la libertà. Da una parte, la schiavitù della creazione si identifica con l'ineluttabile corruzione, a causa della sottomissione. 49 Giovanni, lettera ai Romani. Lettere ai Galati e ai Romani, in NVB, edizioni paoline Cinisello Balsamo, 71.989, 159-160. 50 A Pitta, lettera ai Romani, paoline, Milano 2001, 302-3. 51 HKSR, creazione KTIZWDUINE, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, a cura di L. Coenene. Tra l'altro, la libertà si identifica con la gloria dei figli di Dio alla quale parteciperà la stessa creazione. 52. Tutta la creazione, quindi tutto ciò che è stata vita, parteciperà all'evento glorioso della trasformazione della materia che, in Cristo, vincerà i vincoli annichiliti della morte ed entrerà nella gloria dei figli di Dio. Questo avverrà proprio perché tutto è posto sotto l'egida dello Spirito di Dio, che ha risuscitato Cristo dai legami della morte e ha vivificato la sua carne, e in lui anche quella dell'uomo e di tutto il creato. Alla luce di ciò e fondandosi sulla realtà divina della creazione e del fatto che tutta la creazione è cosa buona, la Bibbia quindi non solo non disprezza il creato di Dio, ma anzi lo inquadra secondo un'ottica certamente pragmatica e realistica con grandi sviluppi futuri. Gesù si rifarà a questa intuizione biblica quando afferma: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, e Mettilezzi 6:26, confronta LC 12:24. Dio ha pietà non solo degli uomini, ma anche degli animali. G 4:11. 53. Addirittura secondo il racconto della creazione attualmente attribuito alla fonte J54, gli animali, in prima istanza, furono condotti all'uomo perché questi fra di loro scegliesse un aiuto a lui. Convenevole. Povere donne, ma non erano ancora state create. La comunione degli animali con l'uomo primitivo è un tema assai noto. Nelle sagre orientali, confronta Enkidu, gli animali sono solo un aiuto esterno. All'uomo la vera compagna della sua vita sarà la donna. 55. Ma al di là della facile e poco elegante battuta maschilista, evidentemente la somiglianza fra l'uomo maschio e la bestia doveva essere davvero notevole. Infatti la sorte degli uomini è la stessa che quella degli animali. Come muoiono, gli uni e gli altri hanno uno stesso soffio vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Gli uni e gli altri sono vento vano. Gli uni e gli altri vanno verso lo stesso luogo. Gli uni e gli altri vengono dalla polvere. Gli uni e gli altri tornano alla polvere. Chissà se lo spirito vitale dell'uomo sale in alto e se quello dell'animale scende sottoterra. QH3-1921. Chi lo sa, se lo spirito vitale dell'uomo sale in alto, è un ragionamento tipicamente coeletiano. Al versetto 20 ha detto che tanto gli uomini quanto gli animali vengono dalla terra e alla terra tornano. Lo dice perché è evidente per esperienza, almeno per quanto riguarda il ritorno alla terra. La parentela fra l'uomo e l'animale, ben lontana dalla semplificazione darwiniana, è posta in modo evidente dal racconto genesiaco. La realtà del peccato, che avremo modo più avanti di considerare, è la dimensione di nonsense tipica del mondo odierno. Eppure una certa qual simpatia fra il mondo. 52 a Pitta, lettera o punto Cesi. 304. 53. Sacchile nuovo dizionario di teologia biblica a cura di Piero Sano, Giravasi, a Girlanda. Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1988-77. Uomila Massitu, Pile Cinisello Balsamo, 1987. 55. 55. L'uomo che si stacca da Dio e si affida alle proprie sole forze non è quindi che carne votata alla morte, ben lontano dalla dimensione spirituale ricordata. 31. 3. A partire dal III secolo AC, con la dominazione greca, in questa concezione di fondo comincia ad insinuarsi, in misura maggiore o minore, la visione ellenistica dell'uomo. Qua e là si arriva così ad accogliere l'idea di un'anima immortale, che dopo la morte dell'uomo lascia il corpo e fa ritorno in cielo. 56. Spesso trattando di questo argomento e di questa problematica, ci dimentichiamo come uno fra i più grandi pensatori greci, Platone, nonostante tutto fosse a modo suo, propugnatore dell'idea di una certa qual sopravvivenza dell'animale nell'altra vita. Queste tesi sono evidenti nella Repubblica. Le citazioni mutuate dalle tradizioni filosofiche, pur allontanandoci per un momento dalla scrittura, hanno però il merito di fornire un contributo alla riflessione che faccia da contraltare alle tesi aristoteliche sopraccitate e che sono molto familiari ai teologi preconciliari. L'ottica platonica, che sarà ripresa anche dai suoi successori e da coloro che da sempre si sono rifatti al pensiero del filosofo di Atene, certamente simile alle tesi orientaleggianti della trasmigrazione delle anime immortali, inquadrano la nostra analisi su di una prospettiva sconosciuta ed aliena al mondo biblico, ma è meritevole ugualmente di essere citato in quanto lo stesso autore ha, in un certo modo, influenzato anche la tradizione cristiana, specialmente nel versante greco. La scelta attraverso il sorteggio dipendeva per lo più dalle vicende della vita precedente, sicché riferì di aver visto l'anima che un tempo fu d'Orfeo scegliere la vita di un cigno, onde evitare di venire alla luce generato da una donna, meno, in effetti, egli odiava il genere femminile che era responsabile della sua morte, e che l'anima di Tamiri sceglieva la vita dell'usignolo, ma assistette anche alla scelta di un cigno che mutò la sua vita con quella di un uomo e di altri animali canori che si comportarono allo stesso modo. L'anima che sorteggiò il 20° posto meno, e si trattava di quella di Aiace Telamonio, che non voleva più saperne di nascere uomo, ricordandosi del giudizio delle armi, preferì la vita di un leone. Dopo questa veniva l'anima di Agamennone, e anch'essa, in odio all'umanità per le sofferenze che le aveva inflitto, scelse la vita dell'aquila. E l'anima di Atalanta, sorteggiata nelle posizioni intermedie, restando ammirata dalla gloria che tocca agli atleti, non se la sentì di passare oltre, e scelse quella vita. Allo stesso modo, poté vedere altri animali passare alla vita umana, oppure scambiarsi le parti fra loro, così quelli cattivi diventavano bestie feroci e quelli buoni diventavano domestici, in modo da realizzare tutte le possibili combinazioni. Dopo che ogni anima ebbe scelto la propria vita, si presentava alla Chesi nello stesso ordine in cui era stata sorteggiata, e questa le dava il demone che si era eletto, come compagno e custode della sua vita, e altresì come garante della piena realizzazione delle scelte fatte. Questo aspetto di mortalità, e che risente di un'influenza orfica e pitagorica, tende ancora una volta a dimostrare come la magia e il miracolo della vita, umana o subumana che fosse, abbia indotto le alte vette del pensiero filosofico del mondo greco ad interrogare la tradizione e il mito, e soprattutto il. In questo brano è anche drammaticamente evidente il collegamento fra il mondo animale e il mondo umano, entrambi mondi sotto l'egida della vita. E. 56 CF. Ibidem. 57 PL Antico Testamento 1. Repubblica in Platone. Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, Brusconi, Milano 1991, 1327-8. Della Mission. Alquanto interessante da ricordare sempre nella cultura e nella mitologia del mondo greco, a tal proposito, anche un dialogo fra Grillo, compagno di Ulisse tramutato dalla maga Circe, in un maiale, e lo stesso Odisseo. L'idea di poter far tornare uomo il compagno di avventura induce Ulisse a chiedere a Circe di operare la metamorfosi al contrario, ma è importante, a questo punto, chiedere allo stesso Grillo se vuole ritornare ad essere uomo. La risposta è no, un no netto e deciso. Una risposta a sorpresa che offre l'occasione a Plutarco di intessere il dialogo. Fra i tanti temi toccati dai due compagni, Ciaci è anche proprio l'ultimo brano del dialogo 64 che stranamente si interrompe proprio sul più bello, diremmo noi, ovvero quando si accenna ad una certa qual conoscenza di Dio fra gli animali. Od 58. Stai attento, o Grillo, che non sia a tutti i costi contro la realtà. Nell'assegnare la ragione a quegli esseri nei quali non è ingenita l'idea di Dio. Cioè negli animali, appunto. Il tono è dispregiativo. Gr. In senso ironico. Allora non diciamo che tu, Odisseo, benché tu sia così sapiente, straordinario, acuto, che sei nato da Sisifo, la realtà non è come tu dici. Il dialogo qui si interrompe e non sapremo forse mai su quali basi il maiale ex uomo Grillo potesse confutare, dopo la sua esperienza di uomo e di bestia, il re Odisseo, quasi potesse dimostrare che anche gli animali hanno una certa qual conoscenza del loro creatore. 59. Siamo di fronte ad una testimonianza davvero unica nel suo genere. Tuttavia, anche in tarda epoca i vie terzo sec avanti Cristo, nella scrittura si mantiene la concezione fondamentale per la quale nel pensiero dell'uomo il rapporto con Dio è costitutivo. Da un lato, infatti, lo spirito di Dio non viene identificato con l'anima o lo spirito dell'uomo. Lo spirito che opera nella sapienza dei sapienti è lo spirito di Dio, Sap. 7, 22, SS. Dall'altro, l'idea ellenistica dell'origine celeste dell'anima si collega con l'idea giudaica della giustizia o ingiustizia dell'uomo davanti a Dio. Mentre tutte le creature celesti, anima e corpo, sono di origine celeste e quelle terrestri appartengono anch'esse per intero alla terra, un maestro rabbinico, intorno al 200 d.C., dice che l'uomo è la sola eccezione. È evidente l'influenza anche nell'antropologia giudaica, da parte degli ellenizzati, come un fatto compiuto ma molto, molto distante dalla tradizione biblica. Da questo momento in poi non si capirà più se per anima o per spirito si intende ciò che intendono i giudei ellenizzati o i cristiani inculturati in area greca e di area greca, o ciò che intende la Torah. Ma quando si discute della verità, della consistenza e della realtà del soffio vitale, il ragionamento è tutto diverso. Certamente Keleter ha conoscenza di teorie greche e egizie che parlavano di una certa immortalità delle funzioni vitali indipendentemente dal corpo. Il Ba egiziano va nel mondo di là col suo Ka e la Yush, greca deve bere l'oblio della vita trascorsa prima di tornare sulla terra secondo il celebre mito di Platone. Ora qua Elet esclude nella maniera più categorica e addirittura ci fa sopra dell'ironia che possa esistere una tale immortalità della quale non ci sono prove e della quale i testi sacri non hanno mai parlato. 60. Il fatto di confinare animali e uomini nella stessa sorte di annullamento post-mortem apparentemente andrebbe contro la nostra ipotesi di sopravvivenza, ma anzi, vista la realtà futura dell'uomo, allarga ed amplifica questa meravigliosa realtà anche all'animale, proprio perché esiste una similitudine ontologica fra anima, evidentemente la geografa del Qualet non era ancora pienamente edotto sui destini ultimi dell'uomo. Ma non sarebbe forse il caso di comprendere anche gli animali in una sorte più umana e cristiana? Vista la comune condizione che lo scetticismo del predicatore assegna ad entrambi, nella riflessione sapienziale, una riflessione che in un momento ben preciso della storia della teologia del popolo ebraico, a partire dal III secolo avanti Cristo, denuncia una profonda crisi esistenziale nel 58 Od, sta per Odisseo, ovvero Ulisse. 59 CF. Plutarco, I Moralia, 64. Bruta animale razione uti, vol secondo, firmin Dido, Parisis 1890-1214. Traduzione dello scrivente. Il testo originale è in greco e, nella edizione citata, la troviamo con la traduzione latina a fronte. 60 CF. P. Sacchi, Coelet, Ecclesiaste, NVB, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 41986-151. Mondo giudaico, il libro di Giobbe, getta una luce nuova sulla creazione e sul rapporto fra l'uomo e l'animale, e il regno stesso degli animali. Il problema era, perché, nonostante la fedeltà alla legge di Dio trasmessa da Mosè, l'anima dell'uomo dovrebbe estinguersi nel nulla e perire? Possibile che giusti ed ingiusti siano diretti verso lo stesso luogo di estinzione, lo Sheol ebraico, l'Hades greco? Proprio da queste riflessioni critiche della teologia sapienziale si apre nella cosmologia biblica una prospettiva tutta nuova. Sarà soltanto dal III secolo e via che verrà formalizzata in modo pseudo-ufficiale una dottrina sulla resurrezione, ma di questa realtà tratteremo in seguito. Qual è la visione del mondo e del rapporto fra animale e uomo attraverso la rivelazione del libro più difficile di tutta la Bibbia ebraica? Visto il clima di profonda contestazione tipica di un mondo disincantato e critico, il libro di Giobbe ci offre uno spaccato davvero unico e che sopravanza, se fosse possibile, anche l'ideale Eden. O direttamente nel culto, o indirettamente con il lavoro attraverso l'uomo. Si può quindi affermare 61 S. Virgulin, Giobbe, NVB, Edizioni Paoline, Roma 21.984, 289. 62 CF. Ibidem 290. 63 Ibidem 291. 64 S. Tommaso d'Aquino, O.Cisto, 453. Per una rassegna completa sull'elenco degli animali del C39 dell'Opera Tomista, confronta Ibidem 451-460. Che l'ordine divino di dominare sugli animali, l'uomo l'abbia effettivamente adempiuto soltanto molto più tardi di quello che GN possa far intendere grazie all'eziologia. Esiste inoltre un altro aspetto fondamentale nell'economia creativa di Yahweh. Facciamo esplicito riferimento alla festa e al gioco, ovvero alla dimensione ludica ed artistica del creato e del piano divino. Il gioco fa parte integrante del piano creativo e salvifico di Yahweh. L'animale è un'espressione di questa festa. Una creazione che è anche il tono di una festa e persino di un gioco, suggerisce la smitizzando la visione economicistica e razionale che l'uomo vorrebbe imporle. Il bufalo, il biblico ram, altri traducono con rinoceronte o con il mitico unicorno, è la testimonianza viva di questa libertà estetica nella creazione già affermata a proposito della pioggia sul deserto. 65. In questo clima di ridefinizione nei rapporti fra uomini e animali, il libro di Giobbe ci offre quindi uno spaccato lirico davvero insuperabile. Tutto il mondo descritto è posto sotto l'egida della lirica. Ma il vertice della poesia giudaica in questo testo descrittivo della meravigliosa opera della creazione sembrerebbe riguardare il cavallo. Siamo di fronte alla bellezza, all'armonia e alla forza esplosiva della natura. Yahweh sembra compiacersi nel rivelare all'uomo questa dimensione specifica dell'animale e, nella fattispecie, del cavallo. Tutti gli esempi di animali respirano un'aria di libertà, forza e indipendenza. Dio si compiace della sua creazione. L'utilità non è la ragione prima del suo agire. Il soffio creatore è animato dalla bellezza e gioia. 66. Non è l'utilità quindi a dettare a Dio le strategie relazionali con le sue creature, anche posto che siano semplici bestiole, ma la pura gratuità. Il libro di Giobbe ci conduce sulle alte vette della spiritualità umana, avendo anche il merito di essere costituzionalmente un testo universale e non chiuso al particolarismo nazionale. Universale. Non soltanto dal versante umano, ma anche da quello della natura creata. Nel descrivere il cavallo, l'agiografo non sconfina mai nelle descrizioni dell'epica potenza militare e mondana di questa creatura, ma richiama l'origine di tal vigore e il fine di tal dono di Dio all'uomo. 39, 19, 2, 5, capolavoro della poesia ebraica, classica descrizione del cavallo da guerra, incomparabile per vivacità di colorito e potenza di espressione. Nell'antico Oriente, il cavallo è stato per lungo tempo usato solamente per la guerra. La sua maestosità ed intrepida fierezza, che lo stesso creatore sembra ammirare, erano inspiegabili per l'uomo. 67. Se poi dovessimo allargare l'orizzonte dal regno animale domestico e utile all'uomo a quello ostico, e, in un certo senso, ostile all'umanità stessa, ebbene il giudizio positivo di merito sull'atto misterioso della creazione non muterebbe affatto. Gli animali, oltretutto, sono definiti nella scrittura le primizie della creazione di Dio e il behemoth, animale che potrebbe essere l'ippopotamo. Una riflessione sul libro di Giobbe. Queriniana, Brescia 1986, 150. 67 S. Virgulin, Giobbe, O Paticiristo, 293. Allora l'ultima tappa del parto, pur alludendo indirettamente alle doglie, ricorderebbe l'ingresso nel mondo del neonato. 70. Il libro di Giobbe, proprio attraverso la crisi del dolore e della morte dell'innocente, riesce quasi ad anticipare l'era messianica o quantomeno ad annunciarla, denunciando il non senso della vita. Senza la speranza di una vita oltre la polvere, confronta dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. GB 19, 26. In questa sorta di nuova creazione, frutto del mondo messianico in arrivo, Gesù stesso, il Dio con noi secondo Marco, 1.13, dopo il suo battesimo, si intrattiene con le fiere, rendendo presente il tempo dell'armonia cosmica interrotta da Adamo. Il nuovo Adamo si intrattiene con le bestie. E queste stanno con il loro creatore uomo in un'armonia migliore di quella edenica. Egli rimase nel deserto 40 giorni, tentato da Satana. Era con le fiere e gli angeli lo servivano. Anche se le fiere testimoniano il potere politico che gli uomini hanno da sempre opposto al potere divino sulla terra, il loro addomesticamento reale richiama una realtà profetizzata e che l'Evangelista vede realizzata nel Cristo Signore della storia e della natura. 71. La nuova creazione 72, la vera creazione riconduce alla pace messianica, superiore a quella edenica, l'armonia fra l'uomo e tutto il creato e il rapporto nuovo con il regno animale nel futuro. Ameno. C-A-M-A-C-H-O. Il Vangelo di Marco. Analisi linguistica e commento esegetico. Vol 1. Cittadella. Assisi. 1997. 101. Specialmente nota 45. 72. Mekashi ci ha collocati nel luogo dove il paradiso degli inizi, Gen 2 a 3, si è trasformato nel deserto della prova e della creazione messianica. X. B. I. K. A. Z. A. Il Vangelo di Marco, Borla, Roma 1996, 47. La conseguenza del peccato è la morte, secondo esso Paolo, ma anche la frantumazione della comunità. Entro questa comunità esiste e sussiste anche la realtà del mondo animale, senza la quale l'uomo non può vivere nemmeno biologicamente. È una verità sacrosanta e anche scientifica. D'ora in poi, quando si accennerà alla dimensione comunitaria del peccato, ci si dovrà attendere anche la dimensione comunitaria della salvezza, e in questa comunità non si possono eliminare i nostri piccoli amici e conviventi. Ma cosa è in fondo il peccato? Come e perché andrebbe ad interagire anche con gli animali che, notoriamente, né peccano né possono peccare? E sembrerebbe cosa da preti, da religiosi, e molti si sono indaffarati nella storia a camuffare e a laicizzare questa realtà, che, in primo luogo, è un insulto al Dio creatore con surrogati filosofici e psicologici, addirittura psicoanalistici. Il peccato risulta quindi essere la separazione da Dio. Il peccato è la realtà permanente che caratterizza l'uomo unitamente al mondo animale. È uno status di vita. Noi contemporanei diremmo, uno stile di vita che ha per fine ultimo la morte. Tutti invecchiano, tutti soffrono e tutti muoiono, allo stesso modo. Netto. Tutti i viventi. L'alito di vita non riusciamo a trattenerlo né noi né i nostri piccoli amici. L'effetto più evidente del peccato è la morte. Non possiamo sbrigarcela come fece Epicuro, che affermava che della morte non poteva interessarsi. Perché se c'era Epicuro, non c'era la morte, e se ci fosse stata la morte, non poteva esserci Epicuro. Va bene come battuta e come aforisma. Ma posti di fronte alla propria morte non credo si possa. E si abbia voglia di scherzare, no. Il peccato non è cosa da preti, anche se loro sono gli specialisti nel settore. 77. O almeno dovrebbero esserlo. Comincio a dubitarlo, vista l'emorragia irreversibile dei confessionali e la mimesi dei confessori con i laicissimi strizzacervelli. Una confessione al giorno d'oggi rischia seriamente di diventare una seduta di psicoterapia più che un semplice presentarsi di fronte al tribunale del Cristo misericordioso che assolve e ti conduce all'altare per ricevere il perdono eucaristico e la pace con Dio e con i fratelli. A volta, quella del confessore col penitente, 77, non nel senso che pecchino più di altri, ma nel senso che è la materia che studiano meglio per il servizio pastorale che compiono. Sembra una chiacchierata fra amici al bar e poi ci si lamenta della perdita del senso del sacro. Tant è. Purtroppo la difficoltà di parlare di peccato, di un mondo immerso nel peccato, animali compresi, consiste proprio nella definizione del termine peccato. Noi pensiamo di essere peccatori perché pecchiamo, ovvero assumiamo atteggiamenti contrari alla legge di vita. Invece è proprio il contrario, noi commettiamo delle trasgressioni verso la legge di Dio proprio perché siamo peccatori. Nasciamo già marci, morti, sia uomini sia animali. Nasciamo già con un piede nella fossa. Quando riusciamo a nascere? Ebbene, in questa realtà siamo talmente immersi che non immaginiamo nemmeno un modo diverso di vivere, ovvero senza dolore, senza sofferenza e senza morte. Speriamo, ma non immaginiamo un mondo diverso. Ma non è così. Il racconto di Genesi, quello della mela, tanto per intenderci, lo conosciamo tutti, o almeno crediamo di conoscerlo tutti, ma in realtà non lo conosciamo affatto. Se lo conoscessimo veramente, il mondo sarebbe già cambiato, da millenni. Innanzitutto non ci sono né mele né pere. Il testo sacro si riferisce ad un generico frutto, in modo laconico e simbolico. Poi, se si rilegge il testo GN3, bene e con attenzione, si noterà che è proprio l'esercizio del cosiddetto libero arbitrio la vera causa che ha originato il male del mondo.